1. La vita di Cristo, la sua preesistenza. Domani iniziamo una serie di studi sulla vita di Gesù. Perché parlare in modo specifico della vita di Cristo? Innanzitutto perché non è mai troppo parlare di chi è morto a causa nostra. E poi perché parlare di Cristo Gesù è l'argomento più salutare e conveniente per i nostri tempi. Ascoltami e poi mi dirai. Allora ti aspetto alle ore 9:30 su CRCFM, subito dopo il libro più bello. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, eccoci di nuovo insieme per meditare la parola di Dio. Iniziamo oggi una serie di trasmissioni dedicate alla persona di Gesù. A qualcuno sembrerà strano che dedichi delle particolari trasmissioni allo studio della persona di Cristo Gesù, perché in tutte le trasmissioni non faccio altro che parlare di Lui, ma una cosa è prendere atto che tutto ciò che si legge nella parola di Dio sia riferito a Cristo. Altra cosa invece è dedicare alcune trasmissioni solo per prendere in visione in modo globale la vita di Cristo dalla sua preesistenza alla sua glorificazione e al suo ritorno. Altre persone potrebbero pensare che io parli di Cristo per partito preso. Cioè, dato che sono un cristiano, è normale che parli di Lui. In parte può essere così, ma se vogliamo essere obiettivi, Cristo Gesù rimane la persona più straordinaria di tutti i tempi. È il più grande leader che l'umanità abbia mai avuto. Quando pensiamo a condottieri della statura di Giulio Cesare o di Napoleone in confronto a Gesù Cristo, hanno condotto un pugno di uomini. Quando confrontiamo Gesù con Socrate, con Platone, Aristotele o Confucio, la loro sapienza e filosofia svanisce nel nulla. Se poi confrontiamo la vita morale di Cristo con quella di qualsiasi religioso o essere umano, non vi è paragone, perché qualsiasi paragone non ha senso. Sarebbe come confrontare un granello di sabbia con l'intero universo, con le sue migliaia di galassie. Dobbiamo anche riconoscere che Cristo Gesù è l'uomo più amato o odiato che sia mai esistito ed esisterà. Per la fede, in Lui miliardi di persone di ogni ceto, di età e cultura, hanno abbandonato ogni cosa, beni materiali e affettivi, pur di compiere la sua volontà. Altri ancora hanno donato a Cristo Gesù la propria vita, purché venisse conosciuto. Chi lo ha odiato e lo odia tuttora spesso non riesce a spiegare la vera ragione di tale atteggiamento. Gesù non gli ha fatto del male, ha parlato di amore e, non contento di questo, lo ha messo in pratica nel suo sacrificio estremo, la morte in croce, per evitare, proprio a chi gli è contrario, la condanna eterna che già in questo momento pesa su di lui. Eppure non vi è desiderio più grande, per chi non ha fede in lui, che Gesù non sia esistito, che non fosse morto, e poiché questo suo desiderio non può essere reale, non gli rimane che l'odio. L'odio conferma che Cristo Gesù è una persona e un personaggio tuttora vivente e merita di essere amato. Si può odiare solo ciò che si può anche amare. Per quanto venga negata e odiata, la persona di Gesù è più viva che mai. È presente nel substrato di ogni cultura, sia pagana che religiosa. Cancellare la persona di Gesù è voler cancellare dal cielo il sole. Il momento in cui lo si cancella si verifica quando la nostra presenza non è più su questa terra. Di Gesù si possono dire tante cose. Quando andavo a scuola, durante le lezioni di religione, leggevo dei racconti raffiguranti il fanciullo Gesù che faceva degli animali con della terra e questi volavano. Oggi so che queste cose non sono scritte nella parola di Dio e che fanno parte delle favole, ma è facile perdere del tempo di parlare di Gesù in modo distaccato per non essere coinvolti dal suo messaggio. Questo è l'aspetto più comune per le persone. Se sono increduli, parlano di ciò che secondo loro non è giusto nella Bibbia, prendono in giro chi crede ancora alle favole in merito a Dio e a Cristo, disprezzano i religiosi accusandoli di avere una fede utopistica. Essi non si rendono conto che sono proprio loro che, benché si dichiarino increduli o atei, hanno posto la fede in cose irreali e vane. Gli increduli hanno una fede irreale perché i valori politici e sociali nei quali hanno posto fede cambiano del continuo. Le persone che hanno posto fede nelle grandi potenze quali gli Assiri e Babilonesi ed Egiziani, oppure la grande potenza romana, dove sono? Se potessero risorgere in questo momento, quali delusioni avrebbero? Ho ancora presente una mia parente quando mi venne a trovare per esprimermi la sua delusione perché il suo partito era fallito, facendomi contemporaneamente presente la sua invidia per la mia fede che aveva sempre disprezzato. Gli increduli hanno posto fede nelle cose vane perché, avendo come obiettivo le ricchezze terrene e la gloria del mondo, rifiutano di pensare che un giorno dovranno lasciare ogni cosa ad altri. Nonostante vedano che quelli che se ne vanno nell'aldilà non portano con loro nulla, sono talmente insensati da seguire le loro orme. Questa è pura pazzia. Pazzia non perché erano degli insensati nei loro rapporti con il prossimo, o perché facessero delle assurdità, ma la loro pazzia consiste nel occuparsi di cose passeggere per non occuparsi delle cose vere ed eterne. Io credo che molte persone sono coscienti di questo errore, ma non possono farne a meno perché Dio, Cristo e il suo regno impegnano, richiedono il riconoscimento del proprio fallimento per accettare per grazia i piani di Dio. Per quanto l'uomo ne dica, il problema di credere in Cristo è sempre quello: sottomettere la propria ragione a quella di Dio. Proprio perché non si vuole perdere del tempo, mediteremo la vita di Gesù iniziando dalla sua preesistenza, lo considereremo nelle profezie, quando visse nell'oscurità, prenderemo in esame la sua strategia missionaria, il suo insegnamento, i suoi miracoli, le sue sofferenze. Infine, concluderemo con l'esaminare la sua resurrezione, la sua glorificazione e il suo ritorno. In merito alla sua preesistenza, essendo Dio, è ovvio che Cristo non abbia un principio e una fine. Nella lettera agli Ebrei, Cristo Gesù viene definito come colui che è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ebrei 13, 8. Poiché non è possibile paragonare ciò che è eterno con ciò che è limitato, sempre nella lettera agli Ebrei, Gesù Cristo viene paragonato al sacerdote Melchisedec, un uomo del quale non viene citato il padre, la madre, la genealogia o l'inizio dei giorni, né viene narrata la sua morte. Ebrei 7, 3. Proprio perché Cristo non ha avuto un principio, nelle discussioni con i giudei Gesù ha parlato della sua preesistenza, alcune volte in modo velato, altre volte molto apertamente. Una di queste lo troviamo nel racconto di una ennesima diatriba con i suoi contemporanei, che troviamo descritta nel Vangelo di Giovanni al capitolo 8. Per quanto sembra strano, la discussione avvenne con i giudei, che avevano creduto. 8 e 31. Allora i giudei gli risposero e gli dissero: «Non diciamo con ragione che sei un samaritano e che hai un demone». Gesù rispose: «Io non ho un demone, ma onoro il Padre mio. Voi invece mi disonorate. Or io non cerco la mia gloria, vuv, è uno che la cerca e che giudica. In verità, vi dico che, se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte in eterno». Gli dissero dunque i giudei: «Ora conosciamo che tu hai un demone. Abramo ha i profeti. Sono morti, tu invece dici, se uno osserva la mia parola, non gusterà mai la morte in eterno. Sei tu più grande del padre nostro Abramo, il quale è morto. Anche i profeti sono morti. Chi pretendi di essere?» Gesù rispose: «Se io glorifico me stesso, la mia gloria non è nulla. È il mio Padre che mi glorifica, quello che voi dite essere vostro Dio. Ma voi non l'avete conosciuto, io però lo conosco. E se dicessi di non conoscerlo, sarei un bugiardo come voi. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, giubilò nella speranza di vedere il mio giorno. Lo vide e se ne rallegrò». I giudei dunque gli dissero: «Tu non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo?» Gesù disse loro: in verità io vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono». Allora essi presero delle pietre per lanciarle addosso a lui, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio, passando in mezzo a loro, e così se ne andò. In questo bellissimo brano giovanneo Gesù dichiara di aver vissuto al tempo di Abramo e di averlo visto. Non solo. Egli dichiara di essere la divinità che gli ebrei adoravano perché usa il nome Io Sono. e i giudei lo avevano capito molto bene, per questo cercarono di lapidarlo. Quando gli ebrei lapidavano qualcuno era perché aveva commesso una trasgressione morale molto grave, tra le quali la bestemmia. Bestemmiava colui che usava il nome di Jahakato di Acca in modo illecito e colui che si metteva al posto di Dio. Per gli ebrei, al tempo di Gesù, la divinità non poteva assumersi un corpo umano, così chiunque avesse detto di essere Dio veniva inesorabilmente lapidato. Questo episodio dovrebbe togliere ogni dubbio a chi ritiene che Gesù non sia eterno, non tanto perché ne è convinto, ma per un fatto culturale e storico. O quello che è scritto nei Vangeli non è vero, allora dobbiamo buttare via tutta una cultura morale e storica cristiana. Oppure si è costretti ad accettare che Gesù si è presentato come Dio. Non vi sono scelte. Nessuno ha il diritto di pensare come vuole. Può solo scegliere di non credere o di credere. Ogni altro atteggiamento nei confronti di Gesù Cristo non esiste. Secondo quello che ha detto Gesù, la neutralità nei suoi confronti non esiste. Se esistesse, sempre secondo Gesù starebbe a significare l'essere contro di lui. Non solo Gesù ha dichiarato di esistere già prima di Abramo, ma egli ha pure sostenuto di sussistere prima degli esseri angelici. Va detto con i discepoli in occasione di un momento loro di gioia. Ori 70 tornarono con allegrezza, dicendo: Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel nome tuo. Ed egli disse loro: Io vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Luca 10, 17-18. Forse siamo abituati a sentire parlare del Vangelo e a leggerlo, ma un uomo che sostiene di aver visto la condanna di Satana deve essere preso sul serio perché non vi è alternativa. Se quello che ha detto non è vero, non ha il diritto di vivere tra persone assennate. Se è vero allora, e solo allora, l'unica ed inevitabile reazione è quello di adorarlo perché è Dio. Col passare del tempo mi rendo sempre più conto che gli uomini preferiscono non credere che Gesù è Dio perché hanno dei peccati da confessare e abbandonare. E poiché la vera fede ha un prezzo, nessuno, e proprio nessuno, vuole lasciare ciò a cui tiene. Ma dato che Gesù è Dio ed è morto per salvarci, allora ha senso lasciare abitudini sbagliate e dannose per afferrare con fede la vita eterna. Non aggiungo altro per oggi, cari ascoltatori, e a risentirci per considerare la vita di Cristo preannunciata millenni di anni prima della sua nascita. Ciao a tutti! 2. La vita di Cristo. Nelle profezie se ti invitiamo a credere del continuo in Cristo Gesù non è a caso, ma perché ci sono centinaia di profezie al suo riguardo. Non hai bisogno di andare dai chiromanti per conoscere il tuo futuro e quello di Gesù, ma è sufficiente che tu legga la parola di Dio. Domani parleremo proprio di questo. Allora ti aspetto alle ore 9:30 su CRCFM, subito dopo il libro più bello. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, che il nostro Dio benedica il vostro impegno nell'ascoltare la parola di Dio. In questa seconda trasmissione dedicata alla vita di Gesù parleremo delle profezie che lo riguardano. La nascita, la vita, la morte e la resurrezione di Gesù non sono state casuali, ma tutto era stato profetizzato nella scrittura che noi abbiamo a portata di mano, conservata per noi miracolosamente da Dio stesso. L'apostolo Pietro, dopo aver ricordato il suo privilegio di essere stato con Gesù sul monte Tabor, scrisse nella sua seconda lettera agli ebrei dispersi per il mondo di mano allora le seguenti parole: Noi abbiamo anche la parola profetica più certa, a cui fate bene a porgere attenzione come a una lampada che splende in un luogo oscuro finché spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori, sapendo prima questo, che nessuna profezia della Scrittura è soggetta a particolare interpretazione. Nessuna profezia infatti è mai proceduta da volontà d'uomo. Ma i santi uomini di Dio hanno parlato, perché spinti dallo Spirito Santo, 2 Pietro 1:19. 21. Dunque, per Pietro e per i primi cristiani Sabra, le profezie riguardanti Cristo Gesù non furono emesse per una visione umana, ma per volontà di Dio per mezzo dello Spirito Santo. Sotto questo aspetto, Gesù è l'unico fondatore di una religione, profetizzato, approvato, confermato da Dio. Forse a qualcuno questo aspetto potrebbe dire poco, però se non fosse stato così chiunque poteva prendere il posto di Gesù. Ma Dio ha voluto, mediante le profezie, rendere sicura e unica la fede di chi gli avrebbe creduto. A volte ci sono dei dibattiti accesi tra religiosi per avvalorare la propria fede. Nessun capo religioso però può vantare di essere stato profetizzato e soprattutto profetizzato con centinaia di profezie. Gesù ha citato le scritture per dimostrare che lui era il Messia promesso. Chi dei fondatori di religione ha mai fatto questo? Al giorno d'oggi qualcuno cerca nelle scritture una prova che il fondatore della sua religione era stato profetizzato, ma nessuno, e proprio nessuno, può vantarsi di dimostrarlo con centinaia di profezie. Gesù è unico. È unico perché è Dio, e lo ha detto più volte, e è unico anche perché chi vuole porre fede in Lui ha centinaia di prove profetiche. Così, prenderemo in esame le profezie che riguardano Gesù, e per forza di cose siamo costretti a leggere nell'Antico Testamento. Potrei anche solo citarlo, ma poiché desidero che la vostra fede sia fondata nella parola di Dio, ascoltarla è molto importante. Nella parola di Dio si parla di Gesù Cristo fin dalle prime pagine. La prima profezia in senso assoluto fu pronunciata dopo la trasgressione commessa da Eva prendendo il frutto proibito, quando, rivolto al serpente, l'Eterno disse: «Perché hai fatto questo?» La donna rispose: «Il serpente mi ha sedotta, e io ne ho mangiato». Allora l'Eterno Dio disse al serpente: «Poiché hai fatto questo, sii maledetto, fra tutto il bestiame e fra tutte le fiere dei campi. Tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. E io porrò inimicizia fra te e la donna e fra il tuo seme e il seme di lei. Esso ti schiaccerà il capo e tu ferirai il suo calcagno». Genesi 1, 13-15. Il serpente era il maligno, cioè il diavolo, mentre Eva rappresentava il genere umano. Perciò ciò che l'Eterno dichiarò al serpente era che vi sarebbe stata discordia tra il diavolo e tutti coloro che lo avrebbero seguito, e la discendenza di Eva, cioè tra Cristo e tutti coloro che lo avrebbero seguito. In seguito, Cristo avrebbe vinto sul maligno, però mediante la morte. Questa conclusione contrasta in pieno l'interpretazione del cattolicesimo che vede Maria, la madre di Gesù, nella progenie della donna. Gli esegeti cattolici potrebbero anche interpretare che sarebbe stata Maria a mettere sotto i piedi Satana, ma fanno molta fatica ad applicare a Maria il fatto riguardante il calcagno che il diavolo avrebbe ferito. Inoltre, la profezia è che la progenie della donna avrebbe schiacciato il capo al serpente e non la donna. Perciò l'Eterno sta annunziando al serpente la sua sconfitta mediante il sacrificio di Cristo Gesù. Quando l'Eterno mise alla prova Abramo perché offrisse in sacrificio suo figlio, in seguito gli fece la seguente promessa: «E tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza, perché tu hai ubbidito alla mia voce». Genesi 22,18. La discendenza di Abramo alla quale si riferisce l'Eterno non erano tanto gli israeliti, ma Cristo Gesù. Questo lo esprime molto bene l'Apostolo Paolo nella lettera ai Galati. Sempre nel libro della Genesi leggiamo un'altra importante profezia in merito a Gesù, che fu citata da Giacobbe in prossimità della propria morte. «Giuda è un giovane leone, tu risali dalla preda, figlio mio. Egli si china, si accovaccia come un leone, come una leonessa. Chi osa destarlo? Lo scettro non sarà rimosso da Giuda, né il bastone del comando di fra i suoi piedi, finché venga colui al quale esso appartiene, e a lui ubbidiranno i popoli». Genesi 49, 9-10. Non vi è dubbio che Giacobbe abbia profetizzato che delle 12 tribù di Israele, quella di Giuda e un suo discendente avrebbe regnato. Ora, senza ombra di dubbio, Gesù è nato da un discendente di Giuda, ed è lui che regna e regnerà in eterno. Nel libro del Deuteronomio è profetizzato che sarebbe sorto un profeta a quale tutti avrebbero dovuto ubbidire. Deuteronomio 18, 15-19. Mentre nel libro dei Salmi leggiamo in merito a Gesù una cosa veramente incredibile, che egli sarebbe risorto. «Perciò il mio cuore si rallegra, e la mia anima esulta per la gloria della mia eredità. Anche la mia carne dimorerà fiduciosa e al sicuro, perché tu non lascerai l'anima mia nello Sheol e non permetterai che il tuo santo veda la corruzione. Salmo 16, 9-10. Davide, che era un uomo come tutti noi, aveva profetizzato che un giorno sarebbe risorto. Ancor di più egli prevede che il santo, cioè Cristo, perché solo lui non ha commesso nessun peccato, non solo sarebbe risorto, ma che il suo corpo non avrebbe fatto in tempo a decomporsi. In effetti, come tutti sanno, Gesù morì come ogni altro uomo, ma risuscitò dopo 3 giorni, un tempo sufficiente perché il suo corpo non subisse un deterioramento. Nel libro dei Proverbi 34 e nel Salmo 2, Cristo Gesù viene definito figlio di Dio, ma è soprattutto nel Salmo 22 che leggiamo la straordinaria cronaca della crocifissione di Gesù. In merito è bene fare la premessa che al tempo della stesura dei Salmi la pratica della crocifissione era totalmente sconosciuta perché la pena capitale era eseguita con la lapidazione. Leggiamo solo alcuni passaggi di questo Salmo. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché sei così lontano e non vieni a liberarmi, dando ascolto alle parole del mio gemito? Poiché cani mi hanno circondato, uno stuolo di malfattori mi ha attorniato, mi hanno forato le mani e i piedi. Posso contare tutte le mie ossa. Essi mi guardano e mi osservano, spartiscono fra loro le mie vesti e tirano a sorte la mia tunica. Le 2 domande con le quali inizia il Salmo sono state pienamente realizzate da Gesù. Quando si trovava sulla croce, egli fu abbandonato non solo dagli uomini e dai suoi discepoli, ma anche da Dio. La descrizione che cani e malfattori lo avevano attorniato era la realtà nella quale si trovava Gesù, realtà ancora più evidente quando i soldati spartiscono le vesti e tirano a sorte la tunica. Perché era senza cuciture, tessuta ad un sol pezzo da cima a fondo, un uomo che avesse voluto ingannare di essere lui il Messia non avrebbe potuto disporre di questi avvenimenti mentre era in croce, soprattutto quando aveva le mani e i piedi trapassati dai chiodi come Gesù. Eccetto il fatto della resurrezione, fino ad ora abbiamo preso in esame profezie che rientravano nell'ambito umano, ma vi sono altre 2 profezie che non possono appartenere ad un uomo normale, e cioè quella che Gesù sarebbe salito in cielo e nato da una vergine. Quest'ultima profezia la fa il profeta Isaia nel suo libro al capitolo 7. Perciò il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà, e darà alla luce un figlio e gli porrà nome Emanuele. Isaia 7,14. L'errore più comune nell'ascoltare le profezie è quello di farci l'orecchio, ma se riflettiamo un attimo che un bambino nasce da una vergine, o questa è la più grossa fandonia profetica mai detta, oppure è la prova unica che chi sarebbe nato da una vergine è proprio il profetizzato. Poiché Gesù è il solo nato da una vergine, la conclusione più ovvia è che egli è il Dio profetizzato. L'altra profezia riguarda l'ascensione in cielo di Gesù. Tu sei salito in alto, hai fatto prigioniera la prigionia, hai ricevuto doni fra gli uomini e anche fra i ribelli, affinché tu, o eterno Dio, possa dimorare là. Salmo 68,18. Chi è quell'uomo che è salito alla presenza di Dio? Chi è salito in cielo se non Gesù risorto? Può qualche fondatore di religione sostenere di essere risorto e salito alla presenza di Dio vivo? Può qualche religioso musulmano, buddista, shintoista avere una fede simile a quella dei cristiani? Chi legge le scritture rimane affascinato dal fatto che tutta la vita di Gesù è stata un adempimento delle profezie. La sua nascita nella città di Betlemme era profetizzata. Ma tu, o Betlemme Efrata, anche se sei piccola fra le migliaia di Giuda, da te uscirà per me colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini sono dai tempi antichi, dai giorni eterni, Michea 5:2. E da notare che Giuseppe e Maria non erano di Betlemme, ma come si sa dai Vangeli, la nascita di Gesù a Betlemme è stata possibile perché ci era un censimento e Maria, madre di Gesù, ha partorito proprio in quel momento a Betlemme. Inoltre, il profeta Zaccaria ha predetto che Gesù sarebbe entrato a Gerusalemme su di un puledro, sarebbe stato venduto per 30 sicli d'argento e trafitto. Esulta grandemente, o figlia di Sion, manda grida di gioia, o figlia di Gerusalemme. Ecco, il tuo re viene a te, egli è giusto e porta salvezza, umile e montato sopra un asino, sopra un puledro d'asina. Zaccaria 9:9. Allora dissi loro, se vi pare giusto datemi il mio salario, se no lasciate stare. Così essi pesarono il mio salario, 30 sicli d'argento. Zaccaria 11:12. Riverserò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione, ed essi guarderanno a me, a colui che hanno trafitto, faranno quindi cordoglio per lui, come si fa cordoglio per un figlio unico, e saranno grandemente addolorati per lui, come si è grandemente addolorati per un primogenito. Zaccaria 9:10. È impossibile in una trasmissione trattare tutte le profezie in merito a Gesù, ma quelle che abbiamo considerato sono sufficienti per indurci, se vogliamo, a inginocchiarci e adorare Cristo Gesù, riconoscendolo quale Salvatore, Signore e Dio. Altro non ho da aggiungere, cari ascoltatori, se non che vi aspetto alla prossima per parlare del periodo della vita di Gesù dalla nascita fino al momento del suo battesimo. Ciao a tutti. 3. La vita di Cristo nell'oscurità. Domani parleremo degli avvenimenti che riguardano la vita di Gesù. Che il Figlio di Dio abbia assunto un corpo non è una favola paragonabile a qualsiasi altra favola, perché se una delle persone della Trinità si è fatto uomo, allora è necessario che noi conosciamo bene ciò che è successo. Se lo vuoi sapere, ti aspetto alle ore 9:30 su CRCFM, subito dopo il libro più bello. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, benvenuti al nostro importante appuntamento. Chi ci segue regolarmente sa che stiamo studiando la vita di Gesù. Per alcuni potrà sembrare fanatismo religioso parlare regolarmente di Gesù più o meno in ogni nostra trasmissione, ma se Gesù è il Figlio di Dio, fattosi carne, allora non vi può essere tema più importante se non quello vertente su di Lui. Inoltre, il cristianesimo non annuncia solo la divinità di Cristo Gesù, ma annuncia che Egli è venuto sulla terra per riconciliare l'uomo a Dio mediante il suo sufficiente sacrificio sulla croce. Perciò, per quanto tutte le religioni abbiamo un messaggio di speranza, nessun messaggio è paragonabile a quello cristiano. In una cultura infiltrata del messaggio cristiano, l'annuncio di Gesù Cristo che muore in croce non fa molto effetto, e questo purtroppo perché il cattolicesimo romano ha reso insensibili le coscienze delle persone dichiarando loro di essere diventati figli di Dio mediante il battesimo da neonati. Così, con questa premessa, le persone non hanno il problema di dover diventare figli di Dio mediante un atto di fede secondo quanto afferma la parola di Dio, ma al massimo devono sforzarsi di essere graditi a Dio con un cammino giusto e corretto. Purtroppo, questo è uno dei grossi errori della religione cattolica romana, perché diventando figli di Dio mediante il battesimo da neonati, i seguaci di questa religione non hanno garanzia di possedere la vita eterna, dato che alcuni di questi possono essere perduti. Perciò è più che necessario parlare dell'opera unica, irrepetibile e sufficiente di Cristo, mediante la quale chi pone fede in essa riceve il perdono dei peccati una volta per sempre e riceve la vita eterna, cioè Cristo Gesù. E poiché il messaggio di Cristo ancora oggi non è ben compreso, abbiamo iniziato a parlare della divinità di Gesù. Se ci è un tema che non dovrebbe essere trattato per la sua ovvietà, è proprio questo, ma riscontro sempre più che tra coloro che si professano credenti o cristiani, il tema della divinità di Cristo è alquanto oscuro, se non addirittura rifiutato. Ma desidero dire apertamente che non è possibile essere cristiani se non si crede che Gesù Cristo è Dio, cioè se non si vive di conseguenza, dando a Lui solo il culto, l'adorazione, il servizio. Pregare i morti, i santi, ritenere Maria madre di Dio, credere che vi sia un santo padre sulla terra, sono segni di una mancanza di riconoscimento della divinità di Cristo. La parola di Dio ci narra che Gesù fu conosciuto pubblicamente in occasione del suo battesimo circa all'età di 30 anni, Luca 3:23. dalla sua nascita fino al suo battesimo, egli visse nell'oscurità come un giudeo fra i giudei, ma gli scrittori ispirati dallo Spirito Santo raccolsero alcuni particolari della sua nascita e della sua infanzia e ritennero utile tramandarceli per dimostrare che egli era il Dio annunciato. Spesso noi siamo increduli riguardo a ciò che leggiamo nei Vangeli e ci è anche purtroppo tutta una serie di teologia che interpreta la Bibbia come se fosse un libro di favole, ma l'Evangelista Luca inizia il suo Vangelo con una premessa molto importante, poiché molti hanno intrapreso ad esporre ordinatamente la narrazione delle cose che si sono verificate in mezzo a noi, come ce le hanno trasmesse coloro che da principio ne furono testimoni oculari e ministri della parola, è parso bene anche a me, dopo aver indagato ogni cosa accuratamente fin dall'inizio, di scrivertene per ordine, eccellentissimo Teofilo, affinché tu riconosca la certezza delle cose che ti sono state insegnate. Luca 1:1-4. Ciò che era successo al tempo di Gesù non era nascosto ai contemporanei, tanto è vero che molti avevano descritto gli avvenimenti, e poiché non tutti avevano descritto i fatti nel modo giusto, è parso bene anche a Luca di scrivere come le cose erano andate. Scrivere cose vere non è facile, e benché Gesù avesse detto che lo Spirito Santo avrebbe guidato i discepoli a raccontare soltanto ciò che era la verità, notiamo che Luca indagò in modo accurato se le cose che conosceva corrispondevano alla realtà. Questa meticolosità di Luca nel verificare gli avvenimenti per alcuni forse non sorprende, ma se pensiamo ai fanatici religiosi che si appellano solo alla guida dello Spirito Santo per parlare o scrivere, l'esempio di Luca è di grande insegnamento. Gli uomini di Dio che hanno parlato e che parlano per mezzo della persona dello Spirito Santo non vivono in un'atmosfera trascendente, non devono annullarsi come spesso si dice per lasciare a Dio che li possegga. Ma l'opera di Dio si svolge sempre in collaborazione con l'intelligenza dell'uomo. E, vero che Dio compie opere che sorpassano la nostra intelligenza, ma egli non la annulla. Luca ha fatto l'investigatore, ha messo in ordine gli avvenimenti e alla fine, con le capacità che aveva, ha scritto un Vangelo che corrisponde alla verità. Se Luca avesse scritto delle fandonie, non si sarebbe tanto dato da fare, non si sarebbe accertato degli avvenimenti. Non credo nel modo più assoluto che Andersen, scrivendo favole, abbia fatto questo. Dopo essersi informato, Luca inizia il suo Evangelo così. Ai giorni di Erode, re della Giudea, vi era un certo sacerdote di nome Zaccaria, della classe di Abia. Sua moglie era discendente da Aronne e si chiamava Elisabetta. Erano entrambi giusti agli occhi di Dio, camminando irreprensibili in tutti i comandamenti e le leggi del Signore. Ma non avevano figli, perché Elisabetta era sterile, ed entrambi erano già avanzati in età. Ora avvenne che, mentre Zaccaria esercitava il suo ufficio sacerdotale davanti a Dio nell'ordine della sua classe, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, gli toccò in sorte di entrare nel tempio del Signore per bruciare l'incenso. Intanto l'intera folla del popolo stava fuori in preghiera, nell'ora dell'incenso. Allora un angelo del Signore gli apparve, stando in piedi alla destra dell'altare dell'incenso. Al vederlo Zaccaria fu turbato e preso da paura. Ma l'angelo gli disse, «Non temere, Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita, e tua moglie. Elisabetta ti partorirà un figlio al quale porrai nome Giovanni, ed egli sarà per te motivo di gioia e di allegrezza, e molti si rallegreranno per la sua nascita». Perché egli sarà grande davanti al Signore. Non berrà né vino né bevande inebrianti e sarà ripieno di Spirito Santo fin dal grembo di sua madre. E convertirà molti dei figli di Israele al Signore, loro Dio. Ed andrà davanti a lui nello spirito e potenza di Elia, per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti, per preparare al Signore un popolo ben disposto. E Zaccaria disse all'angelo, da che cosa conoscerò questo, poiché io sono vecchio e mia moglie è avanzata negli anni? E l'angelo, rispondendo, gli disse, «Io sono Gabriele che sto alla presenza di Dio e sono stato mandato per parlarti e annunziarti queste buone novelle. ed ecco tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole che si adempiranno a loro tempo. 5:20. Questo episodio potrebbe sembrare anche inutile ai fini di esaminare la vita di Gesù, ma Luca parla del messaggio dell'angelo e dell'incredulità di un capo spirituale, cioè del sacerdote Zaccaria, per metterlo a confronto con il grande avvenimento che segue subito dopo, vale a dire l'annuncio dell'angelo Gabriele a Maria. Leggiamo nel Vangelo di Luca, al capitolo 1, nel sesto mese di Elisabetta che era incinta, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazareth, ad una vergine, e l'angelo, entrato da lei, disse: «Salve, o grandemente favorita, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne». Ma quando lo vide, ella rimase turbata alle sue parole, e si domandava cosa potesse significare un tale saluto. E l'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, tu concepirai nel grembo e partorirai un figlio, e gli porrai nome Gesù. Egli sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre. E regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine». E Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché io non conosco uomo?» E l'angelo rispondendo le disse: «Lo Spirito Santo verrà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti adombrerà, pertanto il Santo, che nascerà da te, sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, tua parente, ha anch'ella concepito un figlio nella sua vecchiaia, e questo è il sesto mese per lei, che era chiamata sterile, poiché nulla è impossibile con Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. 1:26-38. Anche questo episodio merita di essere preso in considerazione, perché si tratta niente meno che dell'incarnazione del Figlio di Dio. È opportuno specificare cosa si intende affermando che Dio ha assunto un corpo. Trovo spesso dei credenti in Cristo che non hanno compreso il grande miracolo dell'incarnazione, perché quando pensano a Dio, hanno l'idea di una persona divina. Da sempre i cristiani credono sì in un solo Dio, ma nel quale sussistono tre persone: il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Parlando di un solo Dio, dobbiamo riferirci alla natura eterna increata, comune a tutte e tre, ma il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono tre persone distinte, separate. Perciò, colui che è figlio di Dio in quanto ha relazione con il Padre e lo Spirito Santo si è fatto uomo. In questo senso possiamo dire che Dio si è fatto carne. Non che tutte e tre le persone hanno assunto la natura umana. Quando era sulla terra, Gesù era perfettamente uomo come ognuno di noi, perché è nato da donna, limitato nel tempo e nello spazio. Non è possibile comprendere la vita di Gesù se non si credono queste prime testimonianze contenute nei Vangeli. Terminiamo qui per oggi le nostre riflessioni, cari ascoltatori, per riprenderle nella prossima. Che la parola di Dio sia il vostro pane quotidiano. 4. La vita di Cristo. Nell'oscurità spot domani parleremo ancora degli avvenimenti della nascita di Gesù, di come il mondo intero ha dedicato un giorno particolare per parlare di questo, e cioè il Natale. Ma sarebbe un grosso errore dedicare al Figlio di Dio un solo giorno all'anno. Un errore che può costare caro. Perciò ti aspetto alle ore 9:30 su CRCFM, subito dopo il libro più bello. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, che la mia felicità di appartenere a Cristo possa anche essere la vostra. In questa quarta trasmissione dedicata alla vita di Cristo, continuiamo le nostre riflessioni in merito al periodo oscuro in cui ha vissuto Gesù, cioè dalla sua nascita al suo battesimo. In effetti, prima del suo battesimo, Gesù era un oscuro ebreo che viveva tra gli ebrei. Nella trasmissione precedente abbiamo considerato la nascita miracolosa di Giovanni il Battista, ma ancor più la nascita anch'essa miracolosa di Gesù, con una differenza però. Mentre la nascita di Giovanni il Battista rientrava nell'ordine umano, Gesù fu concepito dallo Spirito Santo, eccezione che fece di lui l'unico essere umano avente la natura del Dio Trino. L'Evangelista Luca mette in evidenza, sia come medico che come credente, che Maria era vergine nel momento del concepimento e che per i primi mesi essa stette con sua cugina Elisabetta. Per narrare questo episodio, l'Evangelista Luca ricorre a abbondanti particolari, mettendo in evidenza ancora una volta la divinità di Gesù fin dal concepimento. Ciò che avvenne in seguito lo leggiamo nel Vangelo di Matteo al capitolo 1. Or la nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa in matrimonio a Giuseppe, ma prima che iniziassero a stare insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Allora Giuseppe, suo sposo, che era uomo giusto e non voleva esporla d'infamia, deliberò di lasciarla segretamente. Ma mentre rifletteva su queste cose, ecco che un angelo del Signore gli apparve in sogno, dicendo: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria come tua moglie, perché ciò che è stato concepito in lei è opera dello Spirito Santo. Ed ella partorirà un figlio, e tu gli porrai nome Gesù, perché egli salverà il suo popolo dai loro peccati. Or, tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta, che dice: Ecco, la Vergine sarà incinta e partorirà un figlio, il quale sarà chiamato Emanuele, che, interpretato, vuol dire Dio con noi. Gli uomini vengono valutati per quello che fanno. Diventano santi o malvagi secondo il loro comportamento, ma Gesù è stato dichiarato Dio ancor prima di nascere. Gesù Cristo è Dio non per quello che ha fatto, ma per quello che è. L'Evangelo di Luca specifica un altro aspetto di Gesù. E l'angelo, rispondendo a Maria, le disse: Lo Spirito Santo verrà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti adombrerà, pertanto il santo che nascerà da te sarà chiamato Figlio di Dio. Luca 1:35. Gesù è stato dichiarato santo fin dalla nascita. Sembra una cosa ovvia per chi ha abbracciato la fede del cattolicesimo romano, ma nel libro di Giobbe vi è una domanda con la relativa risposta che non può essere ignorata. Chi può trarre una cosa pura da una impura? Nessuno. Giobbe 14:4. Come può da una peccatrice nascere un santo? È impossibile, a meno che chi genera non sia santo, e poiché Gesù è stato concepito dallo Spirito Santo, è ovvio che Gesù abbia la natura divina del Dio Trino. Purtroppo, in merito alla santità, il cattolicesimo romano ha dichiarato un dogma che non ha nessun fondamento biblico, cioè il dogma dell'Immacolata Concezione. Secondo il cattolicesimo, Maria, la madre di Gesù, è nata senza peccato, e questo da genitori peccatori. Come può essere vero questo? La domanda con la relativa risposta di Giobbe sono sempre validi. Chi può trarre una cosa pura da una impura? Nessuno. Inoltre, in tutta la scrittura viene dichiarato esplicitamente che non vi è nessun giusto, neppure uno, né per nascita né per condotta. In quel nessuno vi è compreso anche Maria, la madre di Gesù. Diversamente, la parola di Dio sosterrebbe qualcosa di falso. Oltre ad aver narrato gli eventi che hanno preceduto la nascita del Figlio di Dio, gli evangelisti si sono soffermati anche sulla nascita e sull'infanzia di Gesù Cristo. Ecco il racconto secondo Luca. Ora, in quei giorni fu emanato un decreto da parte di Cesare Augusto che si compisse il censimento di tutto l'impero. Questo censimento fu il primo ad essere fatto quando Quirinio era governatore della Siria, e tutti andavano a farsi registrare ciascuno nella sua città. Ora anche Giuseppe uscì dalla città di Nazaret della Galilea per recarsi in Giudea nella città di Davide, chiamata Betlemme, perché egli era della casa e della famiglia di Davide, per farsi registrare con Maria, sua moglie, che aveva sposato e che era incinta. Così, mentre erano là, giunse per lei il tempo del parto, ed ella diede alla luce il suo figlio primogenito, e lo fasciò, e lo pose a giacere in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. Luca 2:1-7. Da che mondo è mondo, i bambini sono sempre nati e nei modi più disparati, ma gli evangelisti si preoccupano di narrare i particolari della nascita di Cristo Gesù, perché essendo il re di questo creato, vogliono far comprendere che il Figlio di Dio non solo si è fatto uomo tra gli uomini, ma anche la sua nascita non è avvenuta in una reggia. Il racconto dell'Evangelista Luca continua dicendo: Ora in quella stessa regione c'erano dei pastori che dimoravano all'aperto nei campi, e di notte facevano la guardia al loro gregge. Ed ecco, un angelo del Signore si presentò loro, e la gloria del Signore risplendette intorno a loro, ed essi furono presi da grande paura. Ma l'angelo disse loro: «Non temete, perché vi annuncio una grande gioia che tutto il popolo avrà, poiché oggi nella città di Davide è stato generato per voi il Salvatore, che è Cristo il Signore. E questo vi servirà di segno: voi troverete un bambino fasciato, coricato in una mangiatoia». Luca 2, 8-12. Se ciò che troviamo scritto nei Vangeli non fosse vero, i pastori avrebbero confutato questo avvenimento e non avrebbero trovato un bambino coricato in una mangiatoia. Ma l'angelo affermò cose che gli eserciti celesti non proferirono mai a nessun altro: essere vivente, vi è nato il Salvatore. Gesù non è nato come un semplice bambino, ma oltre ad essere stato definito santo e Dio, ora viene definito come il Salvatore. Se il problema più grande dell'uomo è come ottenere la salvezza, allora Gesù è nato come la risposta a tale interrogativo. Egli è il Salvatore, l'unico Salvatore. Non aver capito questo significa non aver compreso nulla del messaggio del Vangelo e della vita di Gesù Cristo. La nascita di Gesù risolve anche un grande interrogativo, e cioè l'umanità e la divinità di Cristo. Quando leggiamo nel Salmo: «Dichiarerò il decreto dell'Eterno. Egli mi ha detto: tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato». 2:7. Alcune sette religiose, tra i quali i testimoni di Geova, affermano che Gesù è stato creato da Dio e quindi inferiore a Dio Padre. Ma essi dimenticano volontariamente che Gesù, in quanto uomo, è stato generato in un momento preciso della storia. Ma in quanto Dio, esso è eterno e coeterno con il Padre. Se chi pone fede in Gesù quale Salvatore non è in grado di distinguerne le due distinte e inscindibili nature, come sono due cose distinte, ma inscindibili lo spirito e l'anima dell'uomo, Ebrei 4:12, ha una fede zoppa, se non una fede pagana. Purtroppo sono pochi coloro che si informano scrupolosamente riguardo a chi hanno creduto e così, seguendo le correnti del presente secolo malvagio, hanno un'opinione di Cristo più vicino al paganesimo o all'arianesimo che alla professione di fede dei primi cristiani. L'evangelista Luca narra altri episodi circa il periodo oscuro della vita di Gesù. Pochi episodi, ma significativi. E cioè la presentazione di Gesù, l'incontro con Simeone e Anna, la visita dei magi, la fuga in Egitto e il ritorno a Nazareth, la visita nel Tempio. Questi episodi sono conosciuti per chi è nato e cresciuto in una cultura toccata dal Vangelo, perciò il pericolo è quello di udire senza aver mai permesso alle parole di Cristo di cambiare il proprio modo di vivere. Un po' come al tempo di Gesù Cristo. Molti lo seguivano. Molti erano attenti al suo messaggio, ma pochi sono stati coloro che lo hanno toccato con la mano della fede come la donna ammalata del flusso di sangue. Anche oggi, molti religiosi formalisti possono toccare Gesù, molti possono seguire Gesù, ma lo fanno magari per curiosità o perché seguono la folla, perché tutti vanno in quel senso, e quindi ci vanno anche loro. Si trovano così trascinati dalla corrente e toccano Gesù. Ma è un toccare che non produce nulla, nessun cambiamento nella propria vita. Ho visto e sentito in televisione un uomo che diceva di avere un rapporto particolare con il Supremo, di essere ammaliato di quel rapporto, ma parlava all'impersonale. Diceva di stare magnificamente bene quando parlava con il Divino e che riteneva essere Dio. Io mi chiedo con chi aveva comunione quest'uomo. Avere comunione con il Dio Trino delle Scritture significa avere comunione con Cristo Gesù, e Cristo Gesù non è una cosa, non è un essere impersonale, ma è una persona come noi a tutti gli effetti, anche se è nello stesso tempo Dio. Sono troppi coloro che si lasciano sedurre da correnti religiose esoteriche che promettono la luna, ma li lasciano sempre invariati, e cioè perduti senza speranza. Chi incontra Cristo Gesù, chi lo tocca, riceve guarigione spirituale e anche benessere fisico. Chi crede nel Figlio di Dio così come è presentato nelle Scritture lo seguirà non per curiosità, non perché lo fanno gli altri, ma perché ha sperimentato nella sua esistenza una nuova potenza, una nuova forza, una nuova vita. Solo allora Gesù non sarà più un oscuro giudeo, ma diventerà la ragione di vita, la meta e l'obiettivo da raggiungere. Occorre provare per credere. Spesso penso al mio passato. Non ho commesso cose gravi, ma se non avessi posto fede in Gesù quando ero giovane, non avrei certamente l'abbondante e fruttuosa vita di oggi. Sarei un uomo senza pace, senza speranza. Sarei un uomo povero e un povero uomo. E, per questo, cari ascoltatori, che del continuo invito ognuno di voi a credere in Cristo, quel credere che ha il potere di cambiare cuore, mente e cammino. Se la fede non cambia, non è la fede che salva. Ci risentiamo ancora per parlare della strategia missionaria di Cristo. Ciao a tutti! 5. La vita di Cristo, la sua strategia missionaria. Spot: perché Gesù si fece battezzare da Giovanni il Battista nonostante non avesse peccato? Qual era la vera ragione del battesimo di Gesù? Perché Gesù Cristo viene chiamato figlio di Dio? Anche se non lo è nel senso comune del termine. Daremo risposta a queste domande alle 9:30 su. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, che la pace di Cristo abiti del continuo nella vostra vita. Oggi prenderemo in esame la strategia missionaria di Cristo Gesù, perché lo scopo della sua venuta sulla terra non fu solo quello di morire in croce, ma anche di testimoniare della verità a tutto il mondo. Egli non ha svolto questo compito subito e da solo, ma si è scelto dei discepoli che dopo la sua morte potessero portare avanti la sua opera. Queste persone divennero apostoli, Luca 6:3, e i loro nomi sono citati nel Vangelo di Matteo al capitolo 10. Fino a circa 30 anni Gesù era un oscuro ebreo che viveva tra gli ebrei, non aveva nessuna particolare sembianza, non aveva fatto niente di particolare perché il popolo lo notasse, fino al giorno in cui fu battezzato. Ecco il racconto dell'Evangelista Luca. Ora, come tutto il popolo era battezzato, anche Gesù fu battezzato, e mentre stava pregando il cielo si aprì e lo Spirito Santo scese sopra di lui in forma corporea come di colomba. E dal cielo venne una voce che diceva: «Tu sei il mio amato figlio, in te mi sono compiaciuto». 2:31. Il battesimo di Gesù rimane per molti un mistero, perché andavano a Giovanni dei peccatori con l'intenzione di voler cambiare vita, e si sa che Gesù non aveva dei peccati da confessare e neppure da dover abbandonare. Eppure Gesù andò da Giovanni il Battezzatore. Perché? A molti sfugge che il battesimo per Gesù costituì un mezzo per essere conosciuto. Questo è testimoniato dallo stesso Giovanni il Battista. Il giorno seguente Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse: «Ecco l'agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo. Questi è colui del quale dissi: dopo di me viene un uomo che mi ha preceduto, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, perciò sono venuto a battezzare con acqua, affinché egli fosse manifestato in Israele». E Giovanni testimoniò dicendo: «Io ho visto lo Spirito scendere dal cielo come una colomba e fermarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma colui che mi mandò a battezzare con acqua mi disse: colui sul quale vedrai scendere lo Spirito e fermarsi su di lui è quello che battezza con lo Spirito Santo. Ed io ho visto ed ho attestato che questi è il Figlio di Dio». Giovanni 1:19-34. Ciò che ha detto Giovanni il Battista toglie un'opinione comune secondo la quale egli avrebbe conosciuto Gesù quale Dio e Messia già prima del battesimo. È vero che Giovanni era cugino di Gesù e certamente lo avrà frequentato molto spesso, ma proprio questo elemento poteva essere un motivo per non conoscerlo come colui che avrebbe battezzato con lo Spirito Santo. Con il battesimo Giovanni ebbe occasione di vedere lo Spirito Santo scendere su Gesù con la delicatezza di una colomba, e questo segno per lui costituì la prova che Gesù era l'uomo scelto da Dio oltre che il Figlio di Dio. La testimonianza di Giovanni il Battista fu certamente unica e manifestò l'espressione di una grande fede, perché nel corso della storia del popolo ebraico non era mai accaduto che qualcuno testimoniasse che Dio avesse un figlio. Questa testimonianza, cari ascoltatori, merita di essere ripresa in questa trasmissione, perché pochi, anzi pochissimi, hanno compreso cosa significa assegnare a Gesù l'attributo di figlio di Dio, tanto è vero che del fatto che Gesù Cristo sia il figlio di Dio, i testimoni di Geova hanno fatto il loro cavallo di battaglia. Poiché Gesù Cristo è il figlio di Dio, ne consegue secondo loro che il significato più ovvio è che egli sia stato generato dal Padre. Secondo quest'interpretazione, infatti, il Padre è il solo Dio, eterno ed immutabile, non generato, non creato. Il Figlio, anche lui di natura divina, inizia la sua sussistenza dopo il Padre come causa. Una simile interpretazione è stata sostenuta dal prete alessandrino Ario, morto nel 336 d.C. Tale eresia è stata condannata dal Concilio di Nicea nel 325. Perché si è portati a pensare a Gesù quale figlio di Dio in questa maniera? Vi sono varie ragioni che abbiamo già spiegato in altre trasmissioni, ma uno di questi è certamente il fatto che spesso si parla della persona di Dio, come se Dio fosse veramente una persona. In armonia con la fede tramandata, una volta per sempre, dobbiamo chiarire ed annunciare che Dio non è una persona, ma tre persone. E cioè il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. È vero che sussiste un solo Dio, che le tre persone della Trinità hanno in comune la stessa natura divina, ma chi pensa che Dio sia una sola persona ha una fede ariana e si mette dalla parte dei testimoni di Geova. Queste precisazioni non sono speculazioni di un pignolo, ma è l'inizio per comprendere, anche se in parte, quello che viene chiamato il mistero della Trinità, anche se non è del tutto un mistero, perché se si parte dal presupposto che la divinità degli ebrei e dei cristiani è una in quanto a natura ma non in quanto a numero, allora molte cose vanno al loro posto. Dopo il battesimo Gesù non fu subito acclamato dalle folle, non venne riconosciuto subito quale figlio di Dio nonostante Giovanni il Battista lo avesse dichiarato apertamente, ma andò nel deserto per essere tentato dal... In seguito alcuni seguono volontariamente Gesù, mentre per altri è lo stesso Gesù che li chiama a seguirlo. Questo doppio aspetto di seguire Cristo Gesù è molto importante per il regno di Dio. Alcuni aspettano che Dio li chiami in uno specifico campo, non facendo nulla nel contempo, ma questo non è un principio buono. È vero che per servire Dio non dipende né da chi vuole né da chi corre, ma è altresì vero che da parte dell'uomo ci deve essere una attiva collaborazione. Nessuno deve dimenticare che Dio non fa quello che spetta all'uomo. Vi sono alcuni credenti che aspettano che Dio faccia tutto, attendono ad ogni istante di essere guidati dallo Spirito come se lui fosse un factotum, ma lo Spirito di Dio non sostituisce l'uomo. Se uno vuole fare il missionario in una nazione che parla un'altra lingua, si deve impegnare a studiare la lingua locale. Lo Spirito Santo non gli insegnerà per miracolo la lingua straniera. Così chi vuole seguire Cristo spesso deve fare vari tentativi per comprendere quale sia la volontà di Dio, e in seguito Dio agirà con aprendo le porte o chiudendole. Lo stesso vale anche per entrare nel regno di Dio mediante la nuova nascita. Vi sono alcuni che aspettano che Dio tocchi in modo particolare il loro cuore o agisca come ha agito per l'Apostolo Paolo con un intervento radicale, ma il normale metodo di Dio non è questo. Se si vuole entrare nel regno di Dio di norma, l'uomo deve impegnarsi a cercare o a bussare per entrare, e questo comporta lettura della parola di Dio, preghiera, frequentare coloro che sono già figli di Dio. Parlavo recentemente del Vangelo con una ragazza e lei mi rispose che non era stata chiamata da Dio. Le risposi come poteva dire questo. Quando la parola di Dio afferma che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Aggiunsi pure che se lei non era chiamata, allora Dio è un bugiardo. Le ho chiesto di scegliere, o era vero ciò che lei supponeva, oppure era vero ciò che la Scrittura afferma. L'opinione che Dio non chiami tutte le persone è molto comune, soprattutto perché dà la possibilità ad alcuni di crearsi un eventuale alibi o scusa, ma poiché non è possibile ingannare Dio, un tale atteggiamento è assurdo. Nel Vangelo di Luca, al capitolo 6, noi leggiamo che Gesù scelse fra tutti i suoi discepoli 12 apostoli e in seguito li mandò a predicare. Poi, chiamati insieme i suoi 12 discepoli, diede loro potere ed autorità sopra tutti i demoni e di guarire le malattie. e li mandò a predicare il regno di Dio e a guarire i malati. E disse loro: non prendete nulla per il viaggio, né bastoni, né sacca, né pane, né denari, e non abbiate due tuniche ciascuno. In qualunque casa entrerete, la rimanete, e da quella ripartite. Se poi alcuni non vi ricevono, uscendo da quella città, scuotete anche la polvere dai vostri piedi, in testimonianza contro di loro. Allora essi partirono e andavano per i villaggi, evangelizzando e operando guarigioni dovunque. Luca 9, 1. L'ordine di Gesù di non prendere nulla per il viaggio non può essere considerato valido in qualsiasi situazione, come fanno alcuni sprovveduti, perché prima di essere arrestato Gesù disse ai discepoli di essere equipaggiati per ogni occasione. Perciò l'ordine di Gesù era temporaneo e molto pericoloso leggere la parola di Dio fuori dal suo contesto. La strategia missionaria di Gesù era quella di poter raggiungere il maggior numero di persone con il messaggio della buona notizia. Questo metodo è e dovrebbe essere seguito da tutti coloro che hanno posto fede in Cristo Gesù. Questa è la ragione per cui l'Evangelo viene tradotto in tutte le lingue, perché i credenti studiano il modo per portare la parola di Dio ovunque, perché i figli di Dio fanno delle trasmissioni per radio. Per alcuni sembra una cosa normale, ma chi teme Dio potrebbe benissimo occuparsi di tante cose, tra l'altro molto più redditizie. Potrebbe pensare a divertirsi e fare i propri interessi, eppure spesso con fatica si impegna perché Gesù Cristo venga conosciuto. Vicino a casa mia vi è un locale di culto cattolico romano dove vi è un'insegna che recita: Gesù Cristo non è amato perché non è conosciuto. Gesù Cristo non è conosciuto perché non è predicato. E per questo che noi di CRC teniamo costantemente presente l'ordine di Gesù Cristo dato nel Vangelo di Matteo: andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato. Ora ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Amen. Matteo 28, 18, 20. Se sei toccato dal Vangelo, caro ascoltatore, ti invito a metterti in contatto con noi e saremo ben lieti di conoscerti. Ti aspetto alla prossima per prendere in esame alcuni insegnamenti di Cristo. Ciao, sei la vita di Cristo e il suo insegnamento. Domani parleremo di alcuni insegnamenti di Gesù in merito al far da maestri, all'idolatria, al non chiamare e a non ritenere nessuno nostro padre spirituale, al fare agli altri ciò che vogliamo sia fatto a noi, e alla necessità di nascere di nuovo. Temi importanti, perciò ti aspetto alle ore 9:30, sub. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, l'Eterno faccia risplendere il suo volto su di voi e vi sia propizio. Continuiamo oggi le nostre riflessioni in merito alla vita di Gesù Cristo e precisamente il suo insegnamento. Abbiamo iniziato a considerare la sua preesistenza, eterna come quella del Padre. Abbiamo considerato Cristo Gesù profetizzato migliaia di anni prima della sua venuta. Abbiamo letto nei Vangeli gli avvenimenti che lo riguardavano prima che fosse battezzato. E infine abbiamo preso atto come egli avesse avuto una strategia missionaria affinché il Vangelo fosse predicato in tutto il mondo. Forse ciò che ha lasciato un segno indelebile nella storia dell'umanità, al punto che anche gli increduli e appartenenti ad altre religioni ne sono rimasti toccati, è stato il suo insegnamento. In merito all'insegnare, è bene fare alcune riflessioni, perché sembra che istruire o ammaestrare per alcuni sia un compito da ambire comunque. Personalmente non la vedo così, e sembra che neppure la parola di Dio stimoli un tale spirito, perché sta scritto: fratelli miei, non siate molti a far da maestri, sapendo che ne riceveremo un più severo giudizio. Giacomo 3, 1. Da questo risultano evidenti due cose. La prima è che occorrono maestri. Giacomo non dice che nessuno deve far da maestro, ma che non siano molti quelli che lo fanno. Infatti è inevitabile che qualcuno insegni perché non tutti siamo uguali e quindi ci sono le persone istruite, quelle intelligenti e altre che lo sono meno. Inoltre, Dio parla agli uomini tramite gli uomini, così ognuno è chiamato a parlare da parte di Dio, cioè a condividere le rivelazioni ricevute da Dio in proporzione alla propria fede. La seconda cosa è che facendo da maestri si riceve da parte di Dio un giudizio più severo. Forse questa è una delle cose che sfuggono maggiormente a coloro che hanno e svolgono il compito di maestri. Così la vita dei predicatori, degli scrittori, dei consulenti matrimoniali, dei conduttori di chiese, dei genitori, tanto per citarne alcuni, è maggiormente esaminata da Dio e giudicata severamente. Basta pensare a Mosè che Dio aveva chiamato per liberare il suo popolo e che più tardi Dio voleva far morire perché non aveva circonciso suo figlio. Quindi non a caso succede che un predicatore, dopo aver parlato dell'amore, si trovi coinvolto in una ingiustizia perché Dio vuole che metta in pratica quanto ha detto. Non a caso succede che un genitore faccia una bella morale al figlio e poi lui stesso si trovi in una situazione nella quale deve esercitare la sua coscienza. Anche se è vero che chi commette dei torti prima o poi ne porta le conseguenze perché non ci sono riguardi personali. Colossesi 3:25 è anche vero che a volte certe situazioni dolorose sono banchi di prova che Dio permette proprio a motivo del fatto che si svolgono compiti di maestro. Non è allettante, quindi, insegnare agli altri, perché se ne riceve un più severo giudizio. Cari ascoltatori, è in questa ottica che dobbiamo ritenere gli insegnamenti di Gesù. Se Gesù Cristo non fosse stato quello che ha detto di essere, cioè la divinità dell'Antico Testamento, avrebbe subito la più grande condanna da parte del Dio Trino. Ma, sempre secondo la parola di Dio, egli invece è stato esaltato e si è messo a sedere alla destra di Dio. Chi conosce il Dio Trino delle Scritture sa che la glorificazione di Gesù Cristo è l'approvazione che ciò che ha insegnato è tutto verità. È evidente che è impossibile prendere in esame in poche trasmissioni tutto ciò che Gesù ha insegnato, perciò ci limiteremo ad esporre solo alcune verità. Dopo aver scelto i 12 apostoli, Gesù tenne un lungo discorso chiamato il Sermone sul Monte, un discorso che ha contenuti morali e civili veramente unici, del resto, come lo è Cristo Gesù. Leggiamo nel Vangelo di Luca al capitolo 6. Beati voi, quando gli uomini vi odieranno, vi scomunicheranno e vi vitupereranno, e bandiranno il vostro nome come malvagio a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno e saltate di gioia, perché ecco, il vostro premio è grande in cielo, nello stesso modo infatti i loro padri trattavano i profeti. 6:22-23. Per quanto se ne parli, il tema della sofferenza e dell'ingiustizia è sempre attuale, perché tutti ne siamo coinvolti. Inoltre, per quanto se ne parli, il tema della gioia è un tema sempre gradito e ricercato. Ebbene, Gesù ha sempre parlato di sofferenza, di ingiustizia e di gioia. Ha parlato della gioia terrena e di quella celeste. Ha parlato della sofferenza terrena e di quella celeste. In questo passaggio Gesù ha dichiarato beati, cioè felici, gli uomini che saranno odiati, scomunicati, disprezzati a causa sua. E perché questa affermazione rimanga nella nostra mente e sia tradotta in pratica, dobbiamo fare degli esempi. Quando è che uno è odiato e disprezzato causa Cristo? Certamente quando nei paesi a regime totalitario si è incarcerati o uccisi per cause politiche o religiose. Ma non sempre è così. Si può soffrire e si soffre a causa di Cristo quando in una nazione definita cristiana, non si seguono le usanze religiose che sono aberranti per il Dio Trino, e cioè offrire il culto o l'onore a persone all'infuori di Dio. Occorre sempre ricordare ciò che disse Tommaso d'Aquino in merito all'idolatria. Punto nel significato letterale indica il culto degli idoli. In senso, proprio l'idolatria è l'attribuzione del culto supremo, dovuto a Dio, a una falsa divinità, alla sua immagine, al suo simbolo. In senso più ampio, si può intendere anche oggi per idolatria ogni culto vizioso prestato alle creature, in quanto il culto spetta esclusivamente a Dio. Poi continua col dire: non solo l'idolatria è peccato, ma uno dei peccati più gravi, in quanto è prestare il culto, riservato solo a Dio, a chi non si deve, cioè a qualche creatura. Noi dobbiamo prendere sul serio ciò che Gesù ha detto, diversamente per nessuno di noi vi è speranza di ricevere la misericordia di Dio. Quando egli disse guai a voi, quando tutti gli uomini diranno bene di voi, perché allo stesso modo facevano i padri loro verso i falsi profeti, Luca 6 e 26, dobbiamo ritenere che tutti gli sforzi per andare d'accordo con chiunque siano sbagliati. Come sono beati coloro che soffrono causa il regno di Dio, così sono sotto condanna coloro che hanno un comportamento sincretistico accomodante a discapito della verità. Molti non hanno compreso che la verità non può andare d'accordo con l'errore, che la verità è oggettiva e non un fatto di prospettiva. Per quanto se ne dica, la verità non è tollerante, cioè non tollera tutti i credi, gli stili di vita e le percezioni individuali della verità, come non si può tollerare che 2 più 2 faccia 5. La tolleranza è riconoscere e rispettare gli altri punti di vista, senza però doverli condividere. Il che, tradotto in pratica, significa sì, non muovere guerra a chi la pensa diversamente, ma continuare comunque ad affermare con fermezza la verità. Così, quando tutti gli uomini parleranno bene di una persona, sia nel campo politico che religioso, allora occorre essere seriamente preoccupati, perché la venuta dell'Anticristo è vicina, se non arrivata. Secondo Gesù, non avere nemici è un segno negativo, perché indica che non si sta diffondendo la verità. Un altro insegnamento di Gesù che deve essere preso sul serio si trova nel Vangelo di Matteo al capitolo 23. E non chiamate alcuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è vostro padre, colui che è nei cieli. Matteo 23, 9. È evidente che Gesù, vietando di chiamare padre qualcuno, non si riferiva ai genitori umani, ma a genitori o conduttori nel campo spirituale. Se ciò che Gesù ha vietato è da mettere in pratica, perché si chiamare padre, o addirittura santo padre, il capo spirituale del cattolicesimo romano? Le spiegazioni possono essere tante, ma per quanto si cerchi delle scusanti, non mettere in pratica un comandamento è sempre sbagliato. Anche al tempo di Gesù certi figli non sostenevano i loro genitori con la scusa di dare il denaro a favore del tempio, ma sono stati ripresi severamente. Da notare che il denaro era dato a favore della fede che professavano, ma Dio vuole ubbidienza e non sacrifici. Tra gli insegnamenti di Gesù ne spicca uno che, messo in pratica, risolverebbe alla radice le problematiche di ogni tipo di convivenza, sia sociale che religiosa. Come volete che gli uomini facciano a voi, così fate a loro. Luca 6 e 31. E sempre difficile sapere come comportarsi con il prossimo, perché ognuno ha un suo modo di considerare il bene e il male, e ciò che può essere giusto per me può non esserlo per un altro. Proprio per questo Gesù non ha dato molte regole specifiche, ma ha però gettato un principio che vale per tutti gli uomini che sono sotto i cieli, e cioè di comportarsi con gli altri come noi desideriamo che gli altri si comportano con noi. Cosa significa questo discorso? Significa che se io desidero che gli altri non mi mentano, che siano gentili, devo essere io il primo a mettere in pratica ciò che desidero da loro. Non solo. Nel campo religioso, dove gli estremismi sono più favorevoli, desidero che gli altri mi impongano un'altra fede. No, allora neppure io devo imporre la mia. Trovo giusto che altri compiano atti vandalistici nel mio paese? No, allora neppure io devo compiere atti vandalistici. Mi compiaccio del fatto di essere odiato? No, allora neppure io devo odiare. Se in ogni azione o parola fossero presenti questi interrogativi, la convivenza umana sarebbe un piacere e non un dispiacere. Ma se le altre parole di Cristo non vengono osservate, come si può pretendere che anche questo comandamento venga ubbidito? Infine, vi è un ultimo insegnamento di Cristo Gesù che è da ritenere il primo per la nostra anima. Gesù, disse: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Giovanni 3, 3 e, molto triste come questo insegnamento di Cristo sia così trascurato, così, oggi si è già soddisfatti di appartenere ad una religione, ma essere cattolici, protestanti, ortodossi, non serve a nulla se non si è diventati figli di Dio mediante un atto di fede in Cristo quale Salvatore e Signore. Per tutti gli uomini occorre la nuova nascita, cioè un'esperienza spirituale mediante la quale si dona e si sottomette a Cristo Gesù la propria volontà, i propri desideri e le ambizioni. Essere musulmani, induisti, buddisti, cattolici, protestanti, ortodossi e non aver realizzato la nuova nascita, per Gesù non permette nel modo più assoluto di entrare nella beatitudine eterna, comunque essa noi la percepiamo. L'insegnamento di Gesù va accolto o rifiutato, non vi sono alternative. Come non vi è alternativa di fronte alla verità. Come Roma è la capitale d'Italia, anche se uno non ci crede, così è di Cristo Gesù, il Figlio di Dio, egli rimane e rimarrà per l'eternità il solo ad essere l'unica verità, la verità stessa. Altro non ho da aggiungere, cari ascoltatori, e vi attendo alla prossima per parlare dei miracoli di Cristo Gesù. Ciao a tutti. 7. La vita di Cristo, i suoi miracoli. Spot. Domani parleremo di Gesù come l'uomo dei miracoli e prenderemo in considerazione che iniziò il suo ministero rifiutando di fare dei miracoli. Perché a volte Gesù ha rifiutato di fare dei miracoli? Qual è il valore del miracolo? Risponderemo alle ore 9:30 su CRCFM, subito dopo il libro più bello. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, che lo sguardo benevolo di Dio sia sulla vostra vita. In questa settima trasmissione vertente sulla vita di Gesù, parleremo di alcuni dei suoi miracoli. Già qualche scettico potrebbe arricciare il naso per questo tema, ma non è possibile ignorare un simile argomento solo per il dubbio che essi siano possibili oppure no. Una cosa è certa, per negare la testimonianza dei miracoli, e mi riferisco a quelli veri, occorrono delle prove, e nessuno ne ha mai potuto fornire di attendibili. Le avrà confutate, come il miracolo della resurrezione di Gesù, ma nessuno ha mai provato che Gesù non sia risorto. Inoltre, chi nega di per sé ogni evento soprannaturale è costretto a negare millenni di storie e milioni di testimonianze a favore dei miracoli. Infine, chi non crede ai miracoli non può essere in grado di leggere la parola di Dio, neppure dalle sue prime righe, perché essa inizia dichiarando: nel principio Dio creò i cieli e la terra. E già di per sé questa descrizione presuppone che ogni cosa sia venuta dal nulla. E se questo non è un miracolo? Perciò, parlare dei miracoli di Gesù non è illogico, anche la persona più incolta sa che Gesù ha compiuto dei miracoli. Gli evangelisti infatti ne narrano almeno 35. Il credente che sia convinto sulla veridicità delle parole di Gesù non può rifiutarsi di credere a quello che egli ha fatto. Gesù non faceva dei miracoli alla stregua di un taumaturgo, ma i suoi miracoli avevano almeno un triplice scopo, e cioè quello di dimostrare che egli era Dio, di dimostrare che il suo messaggio proveniva da Dio e quello di dimostrare il suo amore per il prossimo. Per quanto sembri strano, Gesù non compiva i miracoli per indurre la gente a credere, perché sapeva molto bene che chi non credeva a lui e alla sua legge non avrebbe creduto neppure ad un morto risorto. E così fu, perché quando lui risuscitò, i disonesti increduli rimasero tali. Anche i discepoli di Cristo erano increduli ma non disonesti, perché di fronte all'evidenza ammisero i fatti. Il miracolo dunque ha anche questo scopo, e cioè non obbliga la gente a credere ma mette in evidenza la sincerità dei cuori. Dunque, dal momento che Gesù fece tante cose al punto che, se fossero scritte ad una, non basterebbe il mondo a contenere i libri che si potrebbero scrivere, Giovanni 21 e 25, ci limiteremo a considerare solo alcuni miracoli significativi. L'episodio narrato nei Vangeli riguardante la tentazione che Gesù subì nel deserto da parte del diavolo non è annoverabile tra i miracoli, ma ha qualcosa da insegnarci in merito alla capacità di fare prodigi. Delle tre tentazioni che assalirono Gesù, due si riferivano ai miracoli. Una era quella in merito al tramutare delle pietre in pani che lo avrebbero sfamato, l'altra a buttarsi dal tempio per vedere Dio operare a sua salvezza. Leggiamo la seconda tentazione. Poi il diavolo lo condusse a Gerusalemme, lo pose sull'orlo del tempio e gli disse: «Se tu sei il figlio di Dio, gettati giù di qui. Perché sta scritto, egli comanderà i suoi angeli attorno a te di custodirti, ed essi ti sosterranno con le loro mani, affinché il tuo piede non urti contro alcuna pietra». E Gesù rispondendogli disse: «È stato detto, non tentare il Signore Dio tuo». Luca 4:9-12. Prima di esaminare alcuni miracoli, è forse utile considerare che all'inizio del suo ministero, Gesù si rifiutò di compiere due miracoli. Trasformare i sassi in pane sarebbe stato per Gesù un miracolo egoistico, per quanto legittimo volto a soddisfare un suo desiderio. Buttarsi giù dal tempio sarebbe stato un atto che avrebbe chiesto un intervento di Dio particolare, ma non necessario. Questo comportamento di Gesù dimostra maggiormente come egli considerasse il miracolo un atto che non doveva soddisfare se stesso, neppure la curiosità di chi lo richiedesse, ma doveva essere fatto per dare gloria a Dio. È bene ricordare che Gesù non fece mai nessun miracolo come Dio, ma egli operò e parlò sempre mediante la fede e per la potenza dello Spirito Santo. Atti 1:2. Alcuni credenti, per dimostrare che Cristo Gesù è Dio, prendono a prestito i miracoli che egli fece, ma non è il metodo giusto, sia perché altri uomini fecero dei miracoli e a volte più strabilianti, sia perché questo offusca la gloria di Gesù, quale uomo. Il rifiuto di Gesù compiere dei miracoli, rifiuto tra l'altro non rivolto solo al diavolo, ma anche ad altri uomini, deve far riflettere una società dove il miracolo viene invocato e considerato come la prova più evidente dell'espressione della potenza di Dio. Molti dimenticano volontariamente che anche il diavolo compie dei miracoli, e dimenticare le capacità del maligno significa andargli direttamente incontro. Senza saperlo, molte persone davanti ai miracoli cadono nella trappola del diavolo e si sentono incapaci di rendere un culto solo a Dio tramite Gesù Cristo. Va ripetuto con forza che ogni espressione religiosa di culto e di venerazione offerta a un essere umano, anche solo con un inchino, è un'espressione rivolta al nemico delle nostre anime, cioè al diavolo. I quattro evangelisti non hanno raccontato tutti i miracoli di Gesù. Vi è però un miracolo che è riportato in tutti e quattro i Vangeli, cioè la moltiplicazione dei pani. Ecco come lo racconta Luca. Quando gli apostoli ritornarono, raccontarono a Gesù tutte le cose che avevano fatto. Allora egli li prese con sé e si ritirò in disparte in un luogo deserto di una città, detta Betsaida. Ma quando le folle lo vennero a sapere, lo seguirono, ed egli le accolse e parlava loro del regno di Dio, e guariva coloro che avevano bisogno di guarigione. Ora il giorno cominciava a declinare, e i dodici, accostatisi, gli dissero: «Congeda la folla, perché se ne vada per i villaggi e per le campagne d'intorno a trovare alloggio e nutrimento, perché qui siamo in un luogo deserto». Ma egli disse loro: «Date voi ad essi da mangiare». Essi risposero: «Noi non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci, a meno che andiamo noi stessi a comprare dei viveri per tutta questa gente». Erano infatti circa 5.000 uomini, ma egli disse ai suoi discepoli: «Fateli accomodare a gruppi di 50». Essi fecero così e fecero accomodare tutti. Egli allora prese i 5 pani e i 2 pesci e, alzati gli occhi al cielo, li benedisse, li spezzò e li diede ai suoi discepoli, perché li distribuissero alla folla. E tutti mangiarono e furono saziati, e dei pezzi avanzati ne raccolsero 12 ceste. Luca 9, 10-17. Molto probabilmente non sapremo mai perché questo episodio è narrato in tutti i quattro gli Evangeli, ma una cosa è certa: dopo questo miracolo la gente voleva incoronare Gesù come il loro re. Giovanni 6:15. Forse non accadde in occasione di nessun altro miracolo che in seguito la gente abbia espresso un tale sentimento nei confronti di Gesù, e questo ancora una volta dimostra quale presa psicologica sulle folle abbia colui che procura cibo. Può benessere alla gente senza nessun sforzo. Spesse volte Gesù e i discepoli erano sopraffatti dalle folle che non li lasciavano neppure mangiare. E un simile quadro lo vediamo anche al giorno d'oggi, quando qualche fasullo, ovvero guaritore, procura dell'apparente benessere al prossimo. Siamo tutti fragili davanti alla necessità del benessere e di ottenere delle ricchezze, e come mi è stato detto da tanti, non importa chi ti fa star bene o chi ti procura del denaro, l'importante è la salute e il benessere. Queste predisposizioni favorisce l'opera di Satana più di ogni altra cosa, perché una volta aperta la porta, chiunque può entrare. Un altro miracolo che merita di essere preso in considerazione è l'episodio del cieco di Gerico. Così lo descrive l'Evangelista Luca. Ora, come egli si avvicinava a Gerico, un cieco era seduto lungo la strada, mendicando. Sentendo passare la folla, domandò che cosa fosse. Gli risposero che stava passando Gesù il Nazareno. Allora egli gridò dicendo: «Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me!» Quelli che camminavano davanti lo sgridavano perché tacesse, ma lui gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Allora Gesù, fermatosi, ordinò che gli fosse condotto e, quando gli fu vicino, lo interrogò dicendo: «Cosa vuoi che io ti faccia?» Ed egli disse: «Signore, che io recuperi la vista». E Gesù gli disse: «Recupera la vista, la tua fede ti ha guarito». All'istante egli recuperò la vista e lo seguiva glorificando Dio, e tutto il popolo, vedendo questo, diede lode a Dio. Luca 18:35-43. Gesù guarì tanti ciechi, ma in questo avvenimento vi sono delle particolarità importanti. Mentre un cieco stava mendicando, sentì un rumore insolito di folla e, informatosi su cosa stesse succedendo, gli risposero che stava passando Gesù, il Nazareno. Allora egli gridò: «Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me!» Il cieco non invocò il Gesù nato a Nazareth, ma colui che discendeva da Davide, cioè lo invocò come il Messia. La gente lo sgridava, ma egli alzava ancor più la voce. Quando si è nel bisogno si invoca il Signore anche se gli altri prendono in giro o non vogliono. E, vero, Gesù si fermò. È bello vedere Gesù così impegnato, così circondato dalla folla, prendersi il tempo di fermarsi per un cieco. Che insegnamento per noi oggi che non abbiamo il tempo di dare tempo alle cose importanti. Gesù chiede al cieco cosa vuole che gli sia fatto. Forse per te questa è una delle domande più strane che un uomo possa rivolgere a un cieco che chiede misericordia, ma non lo è. Il cieco chiedeva pietà. Questo non significava automaticamente che egli volesse recuperare la vista. Anzi, poteva chiedere elemosina, cioè ricchezze, o altre cose, alle quali il cieco forse teneva di più. Ho sempre presente un ragazzo menomato in una mano, al quale chiesi se preferiva essere guarito o ricevere la vita eterna. Mi rispose che preferiva essere guarito. Il cieco chiese di recuperare la vista e fu esaudito. E tu cosa chiederesti a Gesù essendo perduto? E cosa chiederesti essendo salvato? Il racconto non termina qui, ma Luca ci dice che il cieco seguiva Gesù e glorificava Dio. Quante volte il Signore ha operato in nostro favore e noi abbiamo dimenticato di seguirlo e di glorificarlo. Che i miracoli di Gesù raccontati nei Vangeli e compiuti nella nostra vita, cari ascoltatori, non siano il fondamento della nostra fede, che tutti noi, e io per primo, possiamo avere come fondamento della nostra fede Cristo Gesù, quale Salvatore e padrone della nostra vita. Ciao a tutti. 8. La vita di Cristo, il Cristo sofferente. Spot, che valore ha la sofferenza? Che valore hanno le profezie? Perché è oltremodo saggio leggere la parola di Dio? Domani, nel parlare delle sofferenze di Cristo, daremo risposta a queste domande. Allora ti aspetto alle ore 9:30 su CRCFM, subito dopo il libro più bello. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, che lo Spirito Santo riveli sempre più al nostro cuore la persona di Cristo Gesù. Continuando a parlare della vita di Gesù Cristo, oggi prenderemo in esame un altro aspetto, e cioè la sua sofferenza. Il tema della sofferenza è sempre attuale, e quando essa ci colpisce con violenza produce sempre un certo effetto. Basti pensare agli ultimi giorni di agonia di Papa Paolo Giovanni XXIII e quanto si sia parlato di lui e del valore salvifico della sua sofferenza. Tutti i giornali ne hanno parlato, come se la sofferenza avesse in sé un valore che concorra alla salvezza dell'anima. Ma così non è, perché perfino la sofferenza di Cristo non ha un valore salvifico in sé, ma il suo valore è dato dal fatto che essa è il risultato di una obbedienza al volere di Dio. Se la sofferenza avesse un valore intrinseco, tutti gli uomini sarebbero salvati, e soprattutto coloro che soffrono per una causa giusta o sbagliata, o coloro che vogliono raggiungere obiettivi di qualsiasi genere con sacrifici in mani. Ma la sofferenza non fa parte altro che della normale esistenza. Vivere significa soffrire. Fatta questa doverosa premessa, possiamo prendere in esame gli ultimi giorni della vita di Cristo, perché è vero che gli evangelisti non hanno riportato tutto quello che Cristo Gesù fece, ma hanno abbondato nel riferire particolari per quello che riguarda l'ultima settimana di vita del loro Maestro su questa terra. Anche qui, come in altre trasmissioni, ci limiteremo a fare valutazioni su alcuni avvenimenti importanti. Forse è opportuno iniziare a considerare il momento in cui Gesù annunzia la sua passione. Troviamo questo suo annuncio nel Vangelo di Luca al capitolo 18. Poi prese con sé i 12 e disse loro: «Ecco, noi saliamo a Gerusalemme, e tutte le cose scritte dai profeti riguardo al Figlio dell'uomo si compiranno. Egli infatti sarà consegnato in mano dei gentili, sarà schernito e oltraggiato, egli sarà sputato addosso, e dopo averlo flagellato, lo uccideranno, ma il terzo giorno risusciterà». Ma essi non compresero nulla di tutto ciò. Questo parlare era per loro oscuro e non capivano le cose che erano state loro dette. Luca 18, 31-34. Fino a questo momento, Gesù aveva parlato della sua morte in modo nascosto, a volte con parabole, altre volte con un linguaggio volutamente poco chiaro. Ma ora, essendo ormai prossimo il suo sacrificio, inizia a parlare in modo chiaro di quello che sarebbe successo. Gesù era sempre cosciente di quello che stava per accadere, e questo rende ancora più prezioso il suo sacrificio. Molte delle sofferenze che noi attraversiamo le accettiamo perché non ci è possibile sfuggirle, né possiamo prevederle. Vi sono molte persone, infatti, che sapendo anticipatamente a cosa vanno incontro diventando cristiani, forse non darebbero la loro vita a Dio. Per alcuni questa è probabilmente una opinione azzardata. Ma è sufficiente ascoltare ciò che anche chi si professa credente dica in merito al matrimonio. Ho sentito spesso parecchie persone asserire con un certo dispiacere che se tornassero indietro non si risposerebbero. Ora, se il matrimonio quale banco di prova contiene grandi gioie e non siamo in grado di sopportarlo, come potremo essere idonei ad affrontare persecuzioni, torture e violente opposizioni? Ma grazie siano rese a Dio perché non ci anticipa la conoscenza del futuro nel momento in cui poniamo fede in Cristo Gesù. Così Gesù, pur sapendo che sarebbe stato tradito, che sarebbe stato schernito, oltraggiato, che gli avrebbero sputato sul viso, che sarebbe stato flagellato e crocifisso, nonostante tutto questo, egli accettò questo compito perché amava le sue creature, fra le quali me e te, più di se stesso. Questo è il vero amore. Per quanto mi riguarda, non mi stancherò mia di parlare dell'amore di Dio manifestato tramite suo Figlio Gesù Cristo. Perché l'amore di Dio oggi rappresenta una semplice espressione privata del proprio profondo significato. In primo luogo, perché è stata logorata dall'uso fattone da innumerevoli generazioni ed è riferita ad eventi che i posteri non conoscono. In secondo luogo, perché definiamo l'amore di Dio secondo i nostri parametri di amore e per questo non vi è nulla di più catastrofico. Dio sapeva che, creando un uomo libero, egli lo avrebbe rigettato. sapeva che nella persona di Giuda egli lo avrebbe tradito e crocifisso, e, nonostante sapesse tutto ciò, lo ha creato ugualmente. Chi di noi, di sua spontanea volontà, creerebbe un Giuda o un Hitler? Dirò di più. Quale scultore scolpirebbe una statua, dandole la vita, rendendola libera, sapendo che, in seguito, questa si rivolterà contro di lui e lo ucciderà? Chi donerebbe la vita a costo della propria? Chi creerebbe i suoi assassini? Quanti genitori di figli delinquenti hanno affermato che, se avessero saputo che essi sarebbero diventati tali, non li avrebbero generati o li avrebbero uccisi? E se il figlio li avesse uccisi, sapendolo in anticipo, non lo avrebbero certo fatto venire al mondo. L'amore di Dio quindi si è manifestato non tanto nell'aver creato l'uomo, ma nell'averlo fatto nonostante sapesse di dover dare la sua vita per lui. E questo, per dei peccatori ribelli e malvagi senza speranza, quali noi siamo. Poco prima di morire Gesù fece il suo ultimo ingresso a Gerusalemme in modo trionfante. L'Evangelista Luca così descrive questo episodio. Gesù andava avanti salendo a Gerusalemme. E come fu vicino a Betfage e a Betania, presso il monte detto degli Ulivi, mandò due dei suoi discepoli, dicendo: «Andate nel villaggio di fronte, entrando nel quale troverete un puledro di asino, legato, su cui nessun uomo è mai salito, scioglietelo e conducetelo qui. E, se qualcuno vi domanda perché lo sciogliete, direte loro così: il Signore ne ha bisogno». E quelli che erano stati mandati andarono e trovarono come egli aveva loro detto. E mentre scioglievano il puledro, i suoi padroni dissero loro: «Perché sciogliete il puledro?» Ed essi dissero: «Il Signore ne ha bisogno». Lo condussero allora da Gesù e, gettate le loro vesti sopra il puledro, vi fecero montare Gesù. E mentre egli avanzava, stendevano le loro vesti sulla strada. E quando egli fu vicino alla discesa del Monte degli Ulivi, tutta la folla dei discepoli iniziò con gioia a lodare Dio a gran voce per tutte le opere potenti che avevano visto, dicendo: «Benedetto il Re che viene nel nome del Signore. Pace in cielo e gloria nei luoghi altissimi». E alcuni farisei fra la folla gli dissero: «Maestro, sgrida i tuoi discepoli». Ed egli rispondendo disse loro: «Io vi dico che se costoro tacessero, griderebbero le pietre». E come egli si avvicinava, vide la città e pianse a su di essa, dicendo: «Oh, se tu, proprio tu, avessi riconosciuto almeno in questo tuo giorno le cose necessarie alla tua pace! Ma ora esse sono nascoste agli occhi tuoi, poiché verranno sopra di te dei giorni in cui i tuoi nemici ti circonderanno di trincee, ti accerchieranno e ti assedieranno da ogni parte, e abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te, e non lasceranno in te pietra su pietra, perché tu non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata». Luca 19, 28, 44. I contemporanei di Gesù stavano osservando l'adempimento di alcune profezie e non lo sapevano. Il profeta Zaccaria aveva predetto che Gesù sarebbe entrato a Gerusalemme montato su di un puledro, 9:9. Nel Salmo 118 viene profetizzato il grido della folla, 118:26. Gesù cita il profeta Abacuc per affermare la lode della natura, 3:3. Il pianto di Gesù era l'adempimento di ciò che è scritto nel profeta Geremia, 13:17. Eppure nessuno, ma proprio nessuno, compreso i discepoli di Gesù, fu in grado di discernere ciò che stava succedendo. Cari ascoltatori, l'esperienza dei contemporanei di Gesù deve farci seriamente riflettere almeno per due ragioni. Prima di tutto perché Dio ha profetizzato tutto ciò che deve succedere e noi siamo responsabili di conoscere i suoi piani. Diversamente siamo come quelle persone inesperte che vogliono montare una tenda senza leggere le istruzioni, dopo aver faticato a lungo e invano. Alla fine, nella disperazione, leggono le istruzioni. Ma le istruzioni, per qualsiasi cosa a noi sconosciuta, devono essere lette prima. Proprio perché le persone non leggono nella parola di Dio le istruzioni su come deve essere vissuta la loro esistenza, la società si trova ad ogni istante in grandi difficoltà per gestire situazioni sempre più ingarbugliate. Gli uomini promuovono convegni, raduni, dibattiti, incontri, ma cercano di risolvere e di rimediare gli imbrogli che hanno creato nella vita con la loro sapienza. E così, anziché produrre qualcosa di veramente utile, si trovano, come per l'inesperto che monta una tenda senza istruzioni, di fronte a difficoltà ancora maggiori. L'uomo ha invocato la libertà sessuale, ed ecco che si trova di fronte a problematiche enormi di genere morale e sanitario. I credenti mettono Cristo al pari di ogni essere umano, ed ecco che non sanno più portare il Vangelo ai perduti. Inoltre, cari ascoltatori, se non conosciamo ciò che è scritto nella parola di Dio, ogni giorno ci troviamo nella stessa situazione dei contemporanei di Gesù. Era normale che un uomo salisse su di un puledro, eppure in quella normalità vi era un adempimento profetico. Così anche al giorno d'oggi è normale che la terra sia inquinata dai prodotti chimici, che il verde diminuisca ogni giorno, che alcune specie di animali si estinguano, che il sole non sia più salutare come una volta, che gli uomini siano sempre più amanti del denaro e del benessere anziché di Dio, che ci sia una ricerca spasmodica del religioso senza cercare Cristo, ma tutto ciò non è altro che l'avverarsi di ciò che ha predetto Dio nella sua parola. Poco male se non fosse che l'avverarsi delle parole di Dio. In merito alle cose terrene, è segno che si avvererà anche ciò che egli ha predetto circa l'aldilà. Gesù ha parlato di una eterna beatitudine e di una eterna condanna. Noi possiamo fare le orecchie da mercante, ma la verità non cambia. Gli episodi della vita di Gesù non solo sono stati scritti per fare conoscere la verità, ma anche per avvertirci di non commettere gli stessi errori dei suoi contemporanei. Rifiutare di credere che Cristo Gesù è l'unico Salvatore e Signore degno di essere adorato e servito equivale a garantirci la condanna eterna. A noi non resta che fare la giusta scelta. Altro non ho da dirvi, cari ascoltatori, e a risentirci per ascoltare con interesse altri episodi della vita di Gesù. Ciao a tutti. 9. La vita di Cristo e Cristo sofferente. Spot. Come mai, nonostante amino tutti, i cristiani sono perseguitati? Non ti sei mai chiesto perché certa gente ascolta il messaggio del Vangelo senza mai accettarlo? Ti piacerebbe avere una risposta? Te la darò domani alle ore 9:30 su CRCFM, subito dopo il libro più bello. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, l'Eterno vi benedica con una sempre più nitida rivelazione di sé. Continuiamo anche oggi le nostre riflessioni in merito alla vita di Gesù. Fino ad oggi abbiamo considerato che Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno, cioè egli non ha avuto inizio né avrà fine. Quando leggiamo nelle Scritture che egli è il principio della creazione di Dio, Apocalisse 3:14, dobbiamo intendere che Cristo è l'origine della creazione di Dio, cioè colui che ha dato origine alla creazione. Un fatto questo confermato in tutta la parola di Dio. Nelle trasmissioni precedenti abbiamo pure considerato la nascita di Gesù, alcuni suoi miracoli e insegnamenti, ed ora stiamo esaminando l'ultima settimana della sua vita terrena. Prima di salire in cielo, Gesù fece un discorso profetico che vale la pena leggere spesso e ricordare per non essere sprovveduti circa ciò che dovrà succedere. Dato che nel nostro intimo vi è il desiderio di conoscere il futuro, è normale che le persone siano interessate a ciò che dovrà succedere, ma non è normale che si rivolgano a sedicenti, maghi ed astrologi, anziché leggere e meditare ciò che Gesù ha detto nei Vangeli. Questo atteggiamento ha veramente dell'assurdo in una società definita cristiana, eppure coloro che sostengo di credere in Cristo sono i maggiori conoscitori e informatori degli oroscopi. Di ciò che Gesù ha detto, metto in risalto solo alcune parole. Or voi sarete traditi anche dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e faranno morire alcuni di voi, e sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma neppure un capello del vostro capo perirà. Luca 21, 16-18. Si sa che i veri seguaci di Cristo si comportano come il loro maestro, facendo del bene a tutti, amando tutti, servendo tutti. Eppure Gesù avverte che arriveranno i giorni nei quali saranno traditi dalle persone più care e odiati da tutti. Incredibile! Non fa riflettere un simile atteggiamento? Com'è possibile che tutti si rivolgeranno contro i cristiani? Che cosa faranno di particolare per meritare questo? Del male? Certamente no, perché non sarebbero più seguaci di Cristo. Perciò l'unica spiegazione è da trovare nella stessa ragione per la quale Gesù Cristo fu crocifisso. Perché Gesù fu crocifisso? Perché era malvagio? No, lo ha detto lui stesso. Il mondo non può odiare voi, ma odia me perché io testimonio di lui, che le sue opere sono malvagie. Giovanni 7:7. Quando i seguaci di Cristo dichiareranno la verità, denunciando il male, allora chi è contro Dio si scaglierà contro di loro. Non perché li odia, ma perché odia Cristo. Chi è in grado di capire questo? Uno degli episodi più sconcertanti della vita di Gesù è stato certamente il tradimento di Giuda. Ecco come lo presenta l'Evangelista Luca. Si avvicinava intanto la festa degli azzimi, detta Pasqua. Ed i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano come farlo morire, poiché temevano il popolo. Or Satana entrò in Giuda, soprannominato Iscariota, che era nel numero dei 12. Così egli andò ad accordarsi con i capi dei sacerdoti e con i magistrati sul come tradirlo, ed essi se ne rallegrarono e convennero di dargli del denaro. Ed egli acconsentì e cercava l'opportunità di consegnarlo nelle loro mani di nascosto dalla folla. Luca 22:1-6. Ciò che rende attraente la parola di Dio è anche la semplicità e l'onestà con la quale narra gli avvenimenti. Giuda, spinto da Satana che se n'era impossessato, va dai religiosi del tempo per mettersi d'accordo circa il modo di tradirlo. Per questo suo atteggiamento Giuda sarà condannato alle pene eterne. Questo episodio mette in luce e risolve uno dei più grossi problemi in merito alla perdizione eterna. Spesso gli uomini pensano di scampare al giudizio eterno, e nel caso questa ci sia, pensano di non essere colpevoli o meritevoli di una condanna eterna. Ma per quanto se la raccontano, non possono sfuggire all'ira di Dio. Giuda ha calcolato ogni mossa per tradire Gesù, ha usato la sua intelligenza per arrivare al suo scopo. Giuda non è stato colto alla sprovvista, non si è trovato di fronte ad una scelta senza aver avuto il tempo per riflettere, ma ha deciso e calcolato ogni cosa. Così è per chi ode l'Evangelo. Dio afferma che tutti abbiamo bisogno di un Salvatore perché tutti siamo per natura figli del maligno, perciò chi ode questo messaggio non può sostenere che non sapeva nulla, non può concludere che lui crede in Dio. E alla fine sarà quello che Dio vorrà, perché il giudizio della condanna eterna è già sul suo capo. Tu, caro ascoltatore, se non hai posto fede in Cristo quale tuo Salvatore e padrone, sei già sotto alla condanna di Dio e l'unico tuo destino è la perdizione eterna. A nulla valgono le tue opinioni, i tuoi ragionamenti, perché se Dio afferma che tutti siamo perduti dalla nascita e che a nulla valgono le espressioni religiose, quali il battesimo da piccoli e le buone opere, questo è da prendere sul serio. Una cosa è certa, tutti i grandi uomini di Dio hanno peccato perché sono stati o disavveduti o hanno avuto un atto di debolezza. Ma quando il peccato è il risultato di una meticolosa preparazione, allora si portano le conseguenze della propria responsabilità. Nessuno si troverà alle pene eterne per caso, ma ci sarà andato dopo aver riflettuto e calcolato ogni cosa come Giuda. Se ritieni Dio giusto, non ha senso la tua disapprovazione se ti trovi condannato alle pene eterne. Un altro episodio che leggendo suscita sempre in me un certo effetto riguarda un momento drammatico durante l'ultima cena, prima che Gesù fosse messo in croce. Lo leggiamo nel Vangelo di Matteo. E quando fu sera, egli si mise a tavola con i 12 e, mentre mangiavano, disse: «In verità, vi dico che uno di voi mi tradirà». Ed essi si rattristarono grandemente, e ciascuno di loro prese a dirgli: «Sono io quello, Signore». Ed egli rispondendo disse: «Colui che ha intinto con me la mano nel piatto mi tradirà». Il figlio dell'uomo certo se ne va secondo che è scritto di lui, ma guai a quell'uomo per mezzo del quale il figlio dell'uomo è tradito. Sarebbe stato meglio per lui di non essere mai nato. E Giuda, colui che lo avrebbe tradito, prese a dire, «Maestro, sono io quello?» Egli gli disse, «Tu l'hai detto!» Matteo 26, 20-25. I discepoli avevano trascorso alcuni anni in compagnia di Gesù e tra di loro, perciò avevano avuto occasione di conoscere i difetti e le virtù. Reciproche. Mentre stavano mangiando, improvvisamente Gesù uscì con un'affermazione alquanto macabra, «In verità vi dico che uno di voi mi tradirà». Provando a immedesimarci nella situazione, non so se avremmo potuto continuare a mangiare, saremmo rimasti con il boccone in bocca. Tradire il maestro? Non ci penso neppure, eppure se lo ha detto è vero come tutte le altre cose dette da lui. Se fossimo stati presenti nel sentire una simile affermazione, forse avremmo pensato ad un altro apostolo, a Giacomo, o a Giovanni che era il più giovane, ma non a noi stessi. Ma ecco che tutti i discepoli all'infuori di Giuda in coro chiedono «Sono io quello, Signore?» Stupenda domanda! Per chiedere a Gesù se il traditore sono io occorre una buona dose di coraggio e soprattutto riconoscere la capacità di tanta bassezza, vigliaccheria e ingratitudine. Con una simile domanda i discepoli rivelavano che opinione avevano di essi. Non si erano preoccupati di vedere chi era il più indegno del gruppo, ma hanno fatto un breve e veloce esame delle loro capacità malvagie, arrivando alla convinzione che molto probabilmente ognuno di essi singolarmente era un potenziale traditore. L'atteggiamento degli apostoli ci insegna quanto bisogno abbiamo di conoscere la nostra potenzialità nel compiere il male, male che può arrivare anche ad esprimersi nel peggiore dei modi. I discepoli di fronte all'annuncio del tradimento non hanno chiesto chi sarebbe stato, ma «Sono io». Che tu possa renderti conto della malvagità che abita in te, per afferrare per fede la potenza della santità di Dio. Queste riflessioni, cari ascoltatori, devono essere prese sul serio e applicate a noi, diversamente ciò che dice Dio non ci giova a nulla. Purtroppo l'atteggiamento comune a molti ascoltatori della parola di Dio è ritenere che il messaggio sia rivolto ad altri e non a ognuno di noi individualmente. Proprio per incoraggiare ad avere il giusto atteggiamento di ascolto, vi propongo una esperienza con la fiducia di essere compreso. Parlavo con mia madre 85enne e come al solito mi raccontava delle cose sbagliate del passato, di come la gente viveva e diceva quando lei era giovane. Ad un tratto fece una osservazione. Una volta era così. Cosa ci vuoi fare? Allora si era ignoranti. Poi aggiunse come per giustificare ciò che aveva detto, ignoranti non è una parola brutta perché vuol dire che uno non conosce, e a quei tempi molte cose non le sapevamo. Passò qualche minuto, e nella conversazione ammise di non conoscere tante invenzioni che si sono fatte. Presi la palla al balzo. E per verificare che le parole acquistano un diverso significato quando sono attribuite a noi, le dissi, allora vuoi dire che sei ignorante? Vidi il suo volto cambiare espressione e mi chiese «Cosa hai detto?» «Ho detto che se non conosci certe cose, allora sei significa che sei ignorante». «Non ti permettere più di dire questa parola a me», replicò lei. «Perché?» chiesi io come se non sapessi che un genitore deve essere onorato anche con le parole. «Se hai appena detto che la parola ignorante non è una brutta parola, cosa ho detto di male?» «È vero», rispose lei, «non è una brutta parola, però non è neppure una parola bella. L'atteggiamento di mia madre è più comune di quanto sembri. Quando parlo con la gente mi rendo conto che tutti sanno più o meno che dopo la morte vi è un giudizio, sanno che nell'aldilà vi è una condanna eterna e un beatitudine eterna. Fino a che questa verità resta solo un concetto astratto, sono d'accordo, ma quando inizio ad applicare a loro il Vangelo dicendo che sono dei peccatori degni di andare all'inferno, allora le parole del Vangelo non sono più vere, o almeno hanno un altro significato. Cari ascoltatori, è così anche per voi? Forse da tempo ascoltate che se non vi ravvedete non vi rimane che la condanna eterna. Ma non ritenete questa verità per voi? Cosa dire? Ignorare o rifiutare l'Evangelo non serve a nulla. Proprio a nulla. che Dio vi dia un cuore saggio da ubbidire con tutta la vostra volontà al suo messaggio di riconciliazione e possiate entrare per fede nel regno di Dio, perché una volta entrati non uscirete mai più. Chi non lo avesse ancora fatto si metta in contatto con noi e saremo ben lieti di poterlo aiutare, perché tutti noi di CRC siamo nati di nuovo mediante un atto di fede in Cristo, Gesù quale Salvatore e padrone della nostra vita. Ciao a tutti e a risentirci per parlare ancora della vita di Gesù. 10. La vita di Cristo, il Cristo sofferente. Spot. Se nel regno di Dio si entrasse per due porte, una da eroi e una da martiri, sono sicuro che ci sarebbe una lunga coda per la porta degli eroi. Domani parleremo ancora della necessità di cedere la nostra volontà a Dio perché sia fatta la sua, e anche che la nostra incredulità non annulla la verità. Ti aspetto alle ore 9:30 su CRCFM, subito dopo il libro più bello. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, benvenuti all'ascolto della parola di Dio. Molte persone evitano la parola di Dio perché la ritengono un libro di altri tempi, altre perché la trovano difficile. Ma se anche ci sono alcune cose difficili da capire, possiamo dire in tutta onestà che il volere di Dio nel suo insieme è alla portata di tutti. Anzi, ciò che l'Eterno Dio dice è molto incoraggiante. Questo comandamento che oggi ti prescrivo non è troppo difficile per te, né troppo lontano da te. Non è in cielo, perché tu dica chi salirà per noi in cielo per portarcelo e farcelo ascoltare, perché lo mettiamo in pratica. Non è di là dal mare, perché tu dica chi passerà per noi di là dal mare per portarcelo e farcelo ascoltare, perché lo mettiamo in pratica. Ma la parola è molto vicina a te. È nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica. Vedi, io pongo oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male. Perciò oggi io ti comando di amare l'Eterno, il tuo Dio, di camminare nelle sue vie, di osservare i suoi comandamenti, i suoi statuti e i suoi decreti, affinché tu viva e ti moltiplichi. Deuteronomio 30, 11-16. Queste parole di Dio sono sufficienti per ascoltare le sue affermazioni con il desiderio di volerle comprendere e mettere in pratica. Proprio perché è possibile capire e applicare il volere di Dio nella nostra vita, nella trasmissione di oggi continuiamo a riflettere sulla vita di Cristo Gesù. Chi ci segue regolarmente sa che stiamo prendendo in esame gli ultimi giorni della vita di Gesù, perché ciò che ha detto e fatto rappresenta un insegnamento che non possiamo trascurare. Nella trasmissione precedente abbiamo parlato di un episodio che mi fa sempre effetto quando lo leggo. Si tratta del momento drammatico intercorso durante l'ultima cena, quando Gesù annuncia ai discepoli che qualcuno di loro lo avrebbe tradito. Giuda chiede se sarebbe stato lui e Gesù lo conferma. Pensiamo un attimo a Giuda, che ha visto tanti miracoli, ha udito parole dalla bocca del Maestro che nessuno ha mai pronunciate da altri, ha notato l'amore di Gesù. Eppure lo ha tradito. Forse tu non credi di essere come Giuda, ma sappi che tutti coloro che odono le parole di Cristo così come sono espresse nell'Evangelo, tutti coloro che conoscono i miracoli di Gesù, tutti coloro che sanno che Cristo è morto per loro, se non si ravvedono sono inescusabili e andranno nelle pene eterne come Giuda. Un episodio degno di nota è anche l'avvertimento di Gesù rivolto ai discepoli che lo avrebbero abbandonato nel momento più difficile. Allora Gesù disse loro: «Voi tutti questa notte sarete scandalizzati per causa mia, perché sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore del gregge saranno disperse. Ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea». Allora Pietro, rispondendo, gli disse: «Quando anche tutti si scandalizzassero per causa tua, io non mi scandalizzerò mai». Gesù gli disse: «In verità ti dico che questa stessa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte». Pietro gli disse: «Anche se dovessi morire con te, non ti rinnegherò in alcun modo». Lo stesso dissero anche tutti i discepoli. Matteo 26, 31-35. Ancora una volta Gesù fa un'affermazione. che sconcerta i suoi discepoli, tutti si sarebbero scandalizzati, cioè avrebbero trovato in lui una ragione per lasciarlo. Lui, il maestro che hanno seguito per anni nella cattiva e buona sorte, ora diventa un impedimento alla fede? Questo proprio no. È evidente che i discepoli accusano il colpo. È normale che si sentano offesi nella loro consacrazione a lui. E così Pietro, il più irruente fra loro, scatta per primo dichiarando al maestro che lui, proprio lui, non si sarebbe comportato come gli altri e che non lo avrebbe lasciato per nessun motivo, a costo di rimanere solo. Quante volte si è convinti di essere coerenti senza poi non riuscire a esserlo? Quante persone sostengono di essere discepoli di Cristo e poi alla prima occasione di umiliazione indietreggiano? Così fecero Pietro e i suoi discepoli. Quello che sfugge in questo episodio è che tutti i discepoli assicurarono Gesù di non lo avrebbero lasciato, ma quando nel Getsemani fu arrestato tutti lo abbandonarono. Questo episodio mette in evidenza che una convinzione non è la realtà. Io posso essere convinto di saltare un muro, ma non è sufficiente perché io sia in grado di saltarlo. Molte persone sono convinte che Dio non esista, che la Bibbia non sia la parola di Dio, che l'inferno e il paradiso non esistano, ma questa loro convinzione non toglie la realtà. Un giorno parlavo del Vangelo con un ragazzo il quale, ad ogni mia affermazione, diceva che lui non ci credeva, che non era convinto. Stanco di sentire questa risposta, gli chiesi quanti anni aveva e lui prontamente mi disse che aveva 24 anni. Seccamente gli risposi: «Io non ci credo, non sono convinto». Sta scritto nella parola di Dio di rispondere allo stolto secondo la sua follia, e questo per indurlo a prendere coscienza del suo insano modo di ragionare. Un altro episodio molto importante della vita di Gesù è la preghiera fatta nel Getsemani. Così lo leggiamo nel Vangelo di Luca. Poi, uscito, andò come al solito al Monte degli Ulivi, e anche i suoi discepoli lo seguirono. Giunto sul posto, disse loro: «Pregate per non entrare in tentazione». E si allontanò da loro circa un tiro di sasso e, postosi in ginocchio, pregava dicendo: «Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia non sia fatta la mia volontà, ma la tua». Allora gli apparve un angelo dal cielo per dargli forza, ed egli, essendo in agonia, pregava ancor più intensamente, e il suo sudore divenne simile a grumi di sangue che cadevano a terra. Luca 22:39-48. Gesù era un uomo di preghiera. Luca 21:37. Perciò nulla di strano che nel momento più difficile della sua vita preghi e inviti a pregare. Se di fatto Gesù morì in croce, fu nel Getsemani che morì la sua volontà. Questo ci insegna che prima di ogni altra cosa è la nostra volontà a cedere nei confronti di Dio. Una sorella mi confidava che stava passando un momento molto difficile ed io le consigliai di dire ogni giorno in preghiera con tutto il cuore: «Mio Dio, sia fatta la tua volontà e non la mia». Rimase stupita e perplessa, ma dopo una settimana mi disse che una simile preghiera aveva funzionato. Caro ascoltatore, se sei in difficoltà nessuno ti può aiutare se non Dio, perché oltre il bene anche le difficoltà vengono da Lui. Perciò la cosa più saggia è cercare sì di risolvere il problema, ma se esso persiste allora non ti rimane che pregare con tutto il tuo cuore senza alcuna forma religiosa. «Mio Dio e mio Signore, sia fatta la tua volontà nella vita che mi hai donato e non la mia». Dobbiamo ricordare che noi siamo la nostra volontà, e cedere essa a Dio significa cedere noi stessi. Notiamo ancora che Gesù, essendo in agonia, non si scoraggiò, non abbandonò la sua comunione con il Padre, ma pregava ancor più intensamente. Gesù aveva una fede ostinata, una fede che nonostante tutto si rivolgeva al Padre, al punto che sulla croce gridò: Dio mio, perché mi hai abbandonato?» Noi abbiamo l'idea che la fede sia solo eroica, cioè quella che fa dividere il mare o fermare il sole, quella che a tutto ha una spiegazione. Ma esiste anche la fede martire, cioè quella che accetta l'umiliazione come l'accettò Cristo. Se nel regno di Dio si entrasse per due porte, una da eroi, una da martiri, sono sicuro che ci sarebbe una lunga coda per la porta degli eroi. Anche l'episodio della crocifissione ha molto da insegnarci. e quando giunsero al luogo detto del teschio, ma crocifissero lui e i malfattori, l'uno a destra e l'altro a sinistra. E Gesù diceva: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno». Poi, spartite le sue vesti, le tirarono a sorte. E il popolo stava là a guardare, ed anche i magistrati col popolo lo beffavano dicendo: «Egli ha salvati gli altri, salvi se stesso, se veramente egli è il Cristo». L'eletto di Dio, anche i soldati lo schernivano, accostandosi e presentandogli dell'aceto e dicendo: «Se tu sei il re dei giudei, salva te stesso». Or uno dei malfattori appesi lo ingiuriava, dicendo: «Se tu sei il Cristo, salva te stesso e noi». Luca 23:33-43. Sfugge a molti che la vita di Cristo sia stata una continua tentazione a cedere al male. Gesù è stato tentato del continuo come nessuno, sia in senso morale che spirituale. Nel senso morale, venne schernito dal popolo, versetto 35, dai soldati, versetto 36, e da uno dei malfattori appeso alla croce, versetto 39. Non solo sopportò pazientemente tutto, ma chiese a Dio di perdonare coloro che lo crocifiggevano. È importante sottolineare la ragione per la quale Gesù chiede al Padre di perdonarli, perché non sapevano quello che facevano. Dio conosce il nostro cuore e i nostri limiti. Perciò egli è disposto a perdonare in caso di ignoranza, ma quando noi volontariamente disubbidiamo a Dio, allora portiamo la conseguenza dei nostri errori. Infatti, le persone che saranno condannate sono coloro che avranno scelto di amare il male più del bene. Giovanni 3:19. La tentazione spirituale di Gesù è consistita nell'agire in modo divino. Infatti, se confrontiamo quello che dissero i magistrati e il popolo e quello che disse il diavolo all'inizio del suo ministero, Luca 4:3-9, comprendiamo che la sua tentazione principale era quella di agire come figlio di Dio. Gesù aveva deliberatamente scelto di essere un uomo e come tale non poteva usufruire della sua autorità divina, quindi la provocazione era tesa a far sì che egli fallisse nel suo mandato. Se Gesù falliva, l'umanità intera, assieme alla creazione, era perduta, senza speranza. Il diavolo voleva che Gesù commettesse lo stesso peccato che egli aveva commesso, cioè l'orgoglio. Ma Gesù non ha ceduto anche quando era pressato da una sofferenza fisica, morale e spirituale. Rimettendosi nelle mani di Dio, Gesù vinse il grande reale nemico delle nostre anime. Poiché ebbe fede e disprezzò il vituperio, Gesù Cristo ora siede alla destra del trono di Dio, Ebrei 12:1-3. Molto simile sarà per chi pone fede in Cristo e rimane vincitore, regnerà assieme a Cristo. Con questa prospettiva, cari ascoltatori, non ci resta che guardare a Gesù Cristo quale esempio di fede e di costanza e correre verso il premio che Dio ha preparato per coloro che lo amano. Vi do l'appuntamento alla prossima per meditare su Cristo risorto. Ciao a tutti. 11. La vita di Cristo, il Cristo risorto. Sput, sei in grado di raccontare in modo cronologico ciò che successe alla resurrezione di Gesù? Sei anche in grado di raccontare in modo cronologico le apparizioni di Gesù? Che tu creda o no alla resurrezione di Gesù Cristo, la mia è una sfida da non perdere. Allora ti aspetto alle ore 9:30 su CRC FM, subito dopo il libro più bello. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, è una gioia incontrarvi e poter parlare francamente di Cristo Gesù, nostro Salvatore e Signore. Come abbiamo detto ancora, se siamo obiettivi, Cristo Gesù rimane la persona più straordinaria di tutti i tempi e il più grande leader che l'umanità abbia mai avuto. Quando pensiamo a condottieri della statura di Giulio Cesare o Napoleone, in confronto a Gesù, Cristo hanno condotto solo un pugno di uomini. Quando confrontiamo Gesù a Socrate, a Platone, Aristotele o a Confucio, la loro sapienza e filosofia svanisce nel nulla. Se poi confrontiamo la vita morale di Cristo con quella di qualsiasi religioso o essere umano, non vi è paragone, perché qualsiasi paragone non ha senso. Sarebbe come confrontare un granello di sabbia all'intero universo con le sue migliaia di galassie. Inoltre, vi è un altro particolare nella vita di Gesù che una volta per tutte mette a tacere ogni suo confronto con qualsiasi altro essere umano, cioè la sua resurrezione. Si sa che molti increduli sono scettici davanti a questa notizia, eppure è molto significativo che la resurrezione di Gesù sia il miracolo che si può provare con maggiore facilità. Infatti non può essere presentata nessuna controprova risalente a quel periodo. L'unica obiezione che può essere avanzata dagli scettici è che un tale avvenimento non sia possibile. Essi tentano di screditare il miracolo della resurrezione sulla base della sua presunta impossibilità, ma non forniscono obiezioni documentate sui fatti storici accertati. Da un attento esame dei Vangeli, che costituiscono la fonte storica dei fatti, rileviamo che la resurrezione di Cristo sia stata diversa da tutti gli altri miracoli in quanto costituisce l'avvenimento fondamentale sul quale è fondata la Chiesa cristiana. Per la Chiesa cristiana non vi sarebbe stata grande differenza se Cristo avesse compiuto altri miracoli o no. E certo che gli altri miracoli aiutarono i discepoli a credere in Gesù e probabilmente in una certa misura prepararono la loro mente ad accettare il più grande di tutti i miracoli. Ma per quello che riguarda la resurrezione il caso è completamente diverso perché senza la resurrezione non vi sarebbe stata la Chiesa cristiana e Cristo non sarebbe stato ciò che affermava di essere. Inoltre, se Cristo non fosse risorto, i cristiani sarebbero stati ingannati per secoli, i predicatori avrebbero proclamato degli errori, i fedeli sarebbero stati ingannati da una falsa speranza di salvezza, 1 Corinzi 15:1-20. Non è possibile quindi parlare di Cristo Gesù e non prendere in esame il racconto della sua resurrezione. Così lo racconta l'Evangelista Luca. Ora nel primo giorno della settimana, al mattino, molto presto esse e altre donne con loro si recarono al sepolcro, portando gli aromi che avevano preparato. E trovarono che la pietra era stata rotolata dal sepolcro, ma entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. E mentre erano grandemente perplesse a questo riguardo, ecco presentarsi loro due uomini in vesti sfolgoranti. Ora, essendo esse impaurite e tenendo la faccia chinata a terra, quelli dissero loro: «Perché cercate il vivente tra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato. Ricordatevi come vi parlò, mentre era ancora in Galilea, dicendo che il figlio dell'uomo doveva essere dato nelle mani di uomini peccatori, essere crocifisso e risuscitare il terzo giorno». Ed esse si ricordarono delle sue parole. Al loro ritorno dal sepolcro raccontarono tutte queste cose agli undici e a tutti gli altri. Or quelle che riferirono queste cose agli apostoli erano Maria Maddalena, Giovanna, Maria madre di Giacomo e le altre donne che erano con loro. Ma queste parole parvero loro come un'assurdità, ed essi non credettero loro. Pietro, tuttavia, alzatosi, corse al sepolcro e, chinatosi a guardare, non vide altro che le lenzuola che giacevano da sole. Poi se ne andò, meravigliandosi dentro di sé di quanto era accaduto. Luca 241:12. Alla lettura degli Evangeli sono molte le persone che restano perplesse, perché non trovano una corrispondenza nei racconti. Anzi, vi trovano delle contraddizioni. Questa impressione è data dal fatto che ogni evangelista racconta i particolari vedendoli da un'angolatura diversa. Se 4 persone testimoni oculari di un incidente stradale dovessero testimoniare di ciò che hanno visto e udito, racconterebbero ognuno dei particolari che non sono colti dagli altri ma che non per questo sono contraddittori. Così gli Evangeli. Sono 4 racconti della vita di Gesù, ma ogni evangelista, pur descrivendo le stesse cose, le ha illustrate da 4 angolazioni diverse. Così mentre Matteo scrisse per gli Ebrei mettendo in evidenza che Gesù è figlio di Davide, mentre Marco scrisse per i Romani mettendo in evidenza Gesù come servo, mentre Luca scrisse per tutti mettendo in evidenza che Gesù proviene dal primo uomo, l'Evangelista Giovanni presenta Gesù come il figlio di Dio. Proprio perché vi è un solo racconto, ma visto da 4 angolature, non è facile riuscire a comprendere come si siano svolti i fatti nel periodo della resurrezione di Gesù. Combinando le 4 narrazioni, ecco quindi molto probabilmente successero i fatti. Maria Maddalena, assieme a Maria, la madre di Giacomo e Salome, si avvia al sepolcro. Esse sono seguite da alcune donne che portano le spezie per la salma. Marco 16:1. Trovano la pietra rotolata e Maria Maddalena torna indietro per dirlo ai discepoli. Luca 00:05 al 00:10. Giovanni 20:1-2. Maria, madre di Giacomo e Salome, si avvicinano alla tomba e vedono l'angelo. Matteo 28:1-8. Tornando indietro per dare la notizia ai discepoli, incontrano le altre donne con le spezie. Intanto Pietro e Giovanni, avvertiti da Maria Maddalena, arrivano al sepolcro, guardano nella tomba e tornano via. Giovanni 20:1-10. Maria Maddalena ritorna al sepolcro piangendo, vede i due angeli e di seguito Gesù, poi obbedendo a lui, va a dirlo ai suoi discepoli. Giovanni 20:11-18. Intanto Maria, madre di Giacomo e Salome, ha incontrato le donne con le spezie e torna indietro con loro e tutte vedono i due angeli. Luca 24:4-5. Questi parlano alle donne, ed esse andando in cerca dei discepoli incontrano Gesù. Matteo 28:8-10. Come si nota, ciò che è successo alla resurrezione non è stato un avvenimento unico e lineare, ma un intreccio di episodi e di andirivieni. Chi non vuole credere troverà questi episodi contraddittori, chi invece è in buona fede cercherà di comprendere ciò che è successo nel giorno della resurrezione di Gesù. Se io vi raccontassi l'esperienza di quel giorno che ho dovuto aprire l'ombrello perché mi pioveva in testa mentre il sole accecava gli occhi, qualcuno potrebbe anche non credermi, ma l'incredulità di qualcuno o anche di tutti non annulla il fatto. Così, caro ascoltatore, se hai dei dubbi in merito alla resurrezione di Gesù, ti invito a fare delle ricerche per dimostrare che ciò che dicono gli Evangeli è falso, ma se non hai o non riesci a trovare le prove, allora non puoi continuare nella tua incredulità perché sarebbe un atto di disonestà mentale. Il dubbio è lecito, ma perseverare nel dubbio dopo l'evidenza è un atteggiamento che lede la salute del nostro pensiero. Le persone pazze e insensate non sono solo quelle che non ragionano, ma anche quelle che hanno ragionamenti distorti rispetto alla realtà. Anche le apparizioni di Gesù dopo la sua resurrezione non sono sempre cronologicamente comprese. È evidente che chi nega la resurrezione di Cristo Gesù nega pure le sue apparizioni dopo la morte. Ma è bene ricordare che non è possibile che centinaia di persone abbiano mentito quando la loro vita è stata un esempio di onestà e rettitudine. E contro il buon senso, poiché le apparizioni di Gesù sono state molte, e poiché anche in questo caso gli evangelisti non si sono preoccupati di trasmettercele in ordine cronologico, facciamo un piccolo riassunto come si sono svolti i fatti. Gesù appare il giorno della resurrezione a Maria Maddalena, Giovanni 20:14-28, alle donne che tornavano dal sepolcro, Matteo 28:8-10, a Pietro probabilmente nel pomeriggio, Luca 00:34. Ai discepoli in Emmaus verso sera, Luca 00:13, e agli apostoli tranne Tommaso, che era assente, Giovanni 00:36. Dopo 8 giorni Gesù appare agli apostoli, questa volta Tommaso compreso, Giovanni 20:24-49, ai discepoli presso il lago di Tiberiade, Giovanni 21. In seguito su un monte, Gesù apparve agli apostoli e a 500 fratelli, 1 Corinzi 15:6 a Giacomo, 1 Corinzi 15:7 agli 11, Matteo 28:16 a Paolo vicino a Damasco, Atti 9:3 e poi a Gerusalemme nel Tempio, Atti 22:17-23-11. Infine Gesù apparve a Stefano fuori di Gerusalemme, Atti 8:5 e a Giovanni nell'isola di Patmos, Apocalisse 1:10-19. Cari ascoltatori, siamo di fronte a tante testimonianze che non è possibile rimanere indifferenti, e credo anche che nessuno nell'udire l'Evangelo possa rimanere quale era prima. Perché allora non credere? Perché non offrire la propria vita a Cristo Gesù che è morto per noi? Sono domande che mi sono sempre posto e molte volte ho concluso che le persone preferiscono non consacrare la loro vita a Cristo perché hanno dei comportamenti e sentimenti che non desiderano lasciare e che Dio chiama peccati. Quando una persona si oppone all'Evangelo è perché desidera continuare ad essere adultera, omosessuale, perché desidera coltivare l'odio, l'inimicizia, il rancore, vuole vivere a modo suo. Da un certo punto di vista umano potrebbe anche trovare comprensione, ma cosa serve conservare certi atteggiamenti sbagliati se dopo la morte tutto è finito e inizia una esistenza eterna nella condanna? Che senso ha non voler lasciare abitudini tra l'altro non buone, che si dovranno lasciare nel giorno della morte per poi essere giudicati degni della condanna eterna? Nessuna logica sana e razionale pende a favore di una esistenza non governata da Dio. Così, cari ascoltatori, che nessuno di noi sia insensato da scegliere i brevi e fugaci illeciti piaceri di questa vita per rifiutare i doni eterni promessi dal Cristo risorto. Gesù Cristo non è risorto solo per salvare l'uomo, ma anche per assicurare che le sue promesse sono vere. Cosa aspettiamo a dirgli di sì? 12. La vita di Cristo ciò lì al suo ritorno. Spot, non ti sei mai chiesto perché i cristiani parlano del paradiso e dell'inferno nonostante non lo abbiano mai visto? E se non esistessero, ti sei mai chiesto perché i cristiani parlano del ritorno di Cristo? E se non tornasse? Le mie sono solo domande provocatorie per incoraggiarti a sentirmi alle ore 9:30 su CRCFM, subito dopo il libro più bello. E poi, mi saprai dire. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, benvenuti al nostro ultimo incontro in merito alle nostre considerazioni sulla vita di Gesù. Fino ad oggi abbiamo detto tante cose, e forse molte ormai note. Ma poiché passeranno i cieli e la terra, e le parole di Cristo non passeranno, allora vale la pena, prima per me e poi per voi, ascoltare le sue parole eterne. Molto probabilmente durante le mie trasmissioni non avrò sempre risposto a tutti i vostri interrogativi, ma sono felice ugualmente di parlarvi perché posso guidarvi a colui che può farlo, e cioè a Gesù Cristo. Quando in ogni situazione la vostra fiducia sarà posta completamente in Cristo, avrò raggiunto il mio scopo. Mi rendo conto che oggi più che mai impera il relativismo etico, cioè che non vi è una verità assoluta, e che la religione di Stato stia diventando proprio questo, ma mentre i tempi duri passeranno, i forti, cioè coloro che sono perseveranti, rimarranno. Perciò continuare ostinatamente a predicare Gesù Cristo quale solo verità e vita è l'atteggiamento più saggio per chi ha posto una reale fede in Cristo. Nelle trasmissioni precedenti abbiamo tracciato un panorama della vita di Cristo. Lo abbiamo visto preesistente presso Dio, lo abbiamo scrutato nelle profezie e abbiamo preso atto della sua infanzia, del suo insegnamento, dei suoi miracoli, della sua sofferenza e della sua resurrezione. In questa trasmissione prenderemo in esame il suo ritorno. Questo tema o dottrina non è stato inventato dagli uomini, ma fa parte di una delle tante promesse di Cristo attese dai cristiani. È importante tenere presente questo aspetto perché i cristiani non sono dei visionari, non predicano le loro idee, non seguono le tradizioni degli uomini, non sono degli idealisti, ma si limitano a predicare ciò che Gesù ha detto. I cristiani sono coloro che hanno accettato un messaggio da parte di Dio e lo trasmettono così com'è. Pochi lo hanno compreso. Se i cristiani parlano del cielo e dell'inferno, non è perché lo hanno visto, è perché Gesù ha detto che ci sono questi due luoghi. Se i cristiani sostengono che Gesù verrà per rapire la Chiesa, non lo dicono perché desiderano essere rapiti, ma perché trasmettono una promessa di Gesù. Perciò, caro ascoltatore, se tu sei uno di quelli che rifiuti l'Evangelo, sappi che non fai torto ai testimoni di Cristo, ma Cristo stesso. E è Lui che ha detto tutte queste cose, perciò te la devi prendere con Lui, e non con i Suoi testimoni. Gesù è salito in cielo, questo è un dato di fatto. Non poteva Gesù finché era sulla terra continuare la sua opera e restaurare immediatamente il suo regno. Poteva farlo, ma la sua ascensione ha molteplici scopi. Innanzitutto Egli si è seduto alla destra del trono di Dio, Ebrei 12:2, ricevendo così il premio che Dio gli aveva promesso. Salendo in cielo, Gesù ora sta preparando una casa per i credenti, Giovanni 14:2, e intercede per loro. Ebrei 7:25 e 1 Giovanni 2:2. Egli ora è il re dei re. Efesini 1:20-21. Ed è capo della Chiesa. Efesini 1:22. Proprio perché Gesù ha compiuto appieno l'opera di Dio, ora è adorato per l'eternità. Apocalisse 1:6. È riconosciuto Signore alla gloria di Dio. Filippesi 2:5-11. Ed è onnipresente nella vita di chi lo ama e lo serve. Matteo 28:2-0. La presenza fisica di Gesù non è più presente sulla terra e noi dovremmo rallegrarcene perché limitato dalla sua natura umana. Egli non poteva occuparsi di più cose nello stesso momento, né pertanto essere contemporaneamente a contatto con tutti i suoi discepoli. Ora invece, secondo la sua promessa, è con ognuno tutti i giorni. Però, secondo la sua promessa, Gesù ritornerà fisicamente sulla terra, con tutti coloro che gli appartengono. Chi ha detto che Gesù ritornerà? È vero che lo ha detto Gesù stesso, ma vi sono altre testimonianze a riguardo? Sì, ne consideriamo quattro, compresa quella di Gesù. E, poiché è importante ascoltare soprattutto la testimonianza di Cristo Gesù, iniziamo dalla sua. Il vostro cuore non sia turbato. Credete in Dio e credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se no, ve lo avrei detto. Io vado a prepararvi un posto. E quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io, siate anche voi. Giovanni 14, 1-3. Dunque Gesù ha assicurato i suoi discepoli dicendo che se ne sarebbe andato per preparare un luogo, ma che sarebbe anche tornato per portarli dove lui si trova. Cerchiamo di rendere concreta questa promessa. La vita è certamente un dono, ma tutti siamo destinati a diventare dei vecchi decrepiti, perciò morire diventa più che un dono. Una volta morti, in qualche posto bisogna pure andare perché il nulla non esiste, e andare a vivere con Gesù Cristo è la prospettiva più bella. Cosa può desiderare di più un credente? Se, come dicono alcuni, dopo la morte non ci è nulla, il credente non perde nulla. Neppure la delusione di essere stato un illuso dato che non ci è più. Se invece ha ragione Gesù, il quale tra l'altro non ha mai avuto torto, allora chi ha posto fede in Cristo ha tutto da guadagnare e nulla da perdere. Ma proprio nulla. Non solo Gesù ha testimoniato del suo ritorno, ma anche gli angeli. La testimonianza dell'Evangelista Luca non può passare inosservata. Mentre i discepoli guardavano, Gesù fu sollevato in alto, e una nuvola lo accolse e lo sottrasse dai loro occhi. Come essi avevano gli occhi fissi in cielo, mentre egli se ne andava, ecco due uomini in bianche vesti si presentarono loro, e dissero: «Uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù, che è stato portato in cielo di mezzo a voi, ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo». Atti 1:9-11. Sembra poca cosa ciò che gli angeli hanno detto, ma i discepoli nel vedere il loro maestro salire in cielo erano perplessi e pieni di interrogativi. Le parole degli angeli, la promessa del ritorno di Cristo, fu per loro un balsamo e un motivo a predicare il Vangelo. Inoltre, vi è pure la testimonianza del ritorno di Cristo data dai profeti. Sarebbero decine e decine le testimonianze, ma noi ne prenderemo una, quella del profeta Zaccaria. Poi l'Eterno uscirà a combattere contro quelle nazioni, come combatté altre volte nel giorno della battaglia. In quel giorno i suoi piedi si fermeranno sopra il Monte degli Ulivi che sta di fronte a Gerusalemme a est, e il Monte degli Ulivi si spaccherà in mezzo da est a ovest formando così una grande valle. Una metà del monte si ritirerà verso nord e l'altra metà verso sud. Zaccaria 14, 3-4. Da notare che le parole del profeta sono state dette circa 400 anni prima che Gesù nascesse. Da notare che il profeta si riferisce alla divinità di Israele, cioè a Jahashua, identificando Jahashua a Cristo. Infine vi è pure la testimonianza degli apostoli. Ora vi diciamo questo per parola del Signore. Noi viventi, che saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo coloro che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con un potente comando, con voce di arcangelo, con la tromba di Dio, discenderà dal cielo, e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi. Poi noi viventi, che saremo rimasti, saremo rapiti assieme a loro sulle nuvole per incontrare il Signore nell'aria. Così saremo sempre col Signore. 1 Tessalonicesi 4, 15-18. Bisogna sottolineare che nessun essere umano avrebbe potuto predire con particolari non indifferenti il ritorno di Cristo, se ciò non fosse stato rivelato da Dio. La dottrina del ritorno di Cristo non proviene da convinzioni umane, ma da una rivelazione di Dio. Perché Gesù ritornerà sulla terra come vincitore? Lo ha detto lui stesso, e cioè per rapire la Chiesa. Ma poiché questo costituisce un argomento tanto importante quanto delicato, oltre a essere oggetto di controversia, ritengo opportuno fare una premessa. Tra le tante cose che si dicono, una è certa. Nessuno sa quando Cristo Gesù tornerà per regnare. È vero che Gesù, quando era sulla terra, ha fatto un discorso profetico per incoraggiare coloro che lo seguivano a rimanere fermi nella fede e per spiegare i segni che avrebbero preceduto la sua venuta, ma dopo 2000 anni gli studiosi delle scritture hanno opinioni diverse. Sì, e chi pensa che Gesù Cristo tornerà prima di una certa profezia di Daniele, chi a metà, chi alla fine, e chi invece pensa che quando tornerà sarà la fine del mondo. Il fatto è che ognuno è pienamente convinto nella sua mente. Cosa dire allora? Non tutti possono avere ragione, ma nella mia ricerca sono arrivato alla conclusione che molto spesso i credenti sulla dottrina del ritorno di Cristo sono più d'accordo di quanto non sembra. A mio avviso le loro differenze di opinione sono dovute ad un aspetto del ritorno di Cristo considerato da un'angolatura diversa. Perciò in questa trasmissione non prenderò una posizione, anche perché non vorrei ferire la sensibilità di qualcuno. L'importante del ritorno di Cristo non è quando viene e come viene, anche perché in fondo Gesù tornerà quando vuole, ma è ciò che produce tale attesa. L'Apostolo Giovanni lo mette in evidenza e vi chiedo, cari ascoltatori, di stare attenti alla lettura. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui, purifichi se stesso, come Egli è puro. 1 Giovanni 3, 2-3. Giovanni afferma che quando Dio sarà manifestato lo vedremo come Egli è, e per questa speranza il credente desidera avere un cammino che gli piaccia. Ecco cosa produce il desiderio del ritorno di Cristo. Caro ascoltatore, io sono pronto ad incontrare Gesù perché ho posto fede in Lui, accettando che il suo sacrificio sia sufficiente per perdonare tutti i miei peccati. Tu sei pronto? Se ora Gesù per te non è il tuo Salvatore e Signore, sappi che Egli, secondo ciò che ha detto, diventerà il tuo giudice. Se non hai preso una decisione, ti invito a farlo ora, perché, anche se Gesù dovesse tardare, il domani non ti appartiene. Voglia il mio Dio che tu possa appartenere a Gesù Cristo per l'eternità. Se non gli appartieni, mettiti in contatto con noi. Saremo ben lieti di conoscerti. Ciao a tutti, e a risentirci per parlare ancora di argomenti utili ed edificanti.